carico. Oh, calma, calma. Oh, tra l'altro sto registrando, così almeno non abbiamo da fare il riassunto la prossima volta, per giusto che mangio e poi pubblicarlo in giro. Tra l'altro, aspetta, Scaldo, ti avevo detto che ti davo una cosa, vero? Sì. Per il riassunto, Sì. Ah. Allora, in realtà, quando avevamo incominciato a giocare, vi avevo detto che vi davo per un premio interpretazione, che poi mi sono scordato ogni volta, con dei bonus circostanziali. Quindi tiro a caso, c'ho una specie di mazzo di carte, e mi è venuto fuori No Impediments. Quindi, Scald, segnatelo. Questo è per il riassunto, eh. Okay. Allora, pensi come sia meglio navigare o usare il quello che ti circonda per muoverti velocemente. La difficoltà di un speed-based task è abbassata di uno step. Quindi in pratica riesci, è un bonus, non è un cipher, è un bonus così circostanziale, sì. E quindi riesci ad adattarti all'ambiente circostanza in maniera eccezionale, okay. E per una volta hai un bonus di speed. Fantastico, grazie. Ok, quindi se mi scordo, ricordatemelo voi eventualmente di darvi sti bonus quando fate qualcosa di speciale. Ne do uno a sessione, perché non sono dei cipher, sono delle cose così, bonus a parte, diciamo. Ma noi facciamo sempre cose speciali. Appunto, quindi dobbiamo trovare la cosa la più speciale. Ok. Ti facciamo un riassunto della puntata precedente o non c'è bisogno? Ma io gli ho spiegato a grandi linee. Ok. Di come anche non siamo riusciti ad abbattere un'alga. Esatto. Nir, tu eri lì che ti portavi dietro in pratica tutto l'equipaggiamento da sommozzatore. In pratica diciamo che non hai fatto niente l'ultima volta, perché eri occupato a portare dietro tutte le tute subacquee e tutto il resto, quindi avevi troppa roba tra le mani per combattere o fare altre cose. Okay. Sì, poi sei finito anche nella tasca per un periodo. Esatto, ti avevano intascato una specie di tasca dimensionale. Sì, mi hanno raccontato qualcosina, ho letto riassunto di Scald. Ok, guarda, ti faccio anche rivedere eventualmente l'occhione. Ah sì, inchinati al grande potere. Dunque, l'occhione è così, l'occhione. Lo vedete? Questo è il parente. Ah, ecco. No, aspetta un secondo, che cacchio mi è finito. L'ho perso. C'ero 20, scusa. Ah, non lo vedo. Ma che sfigato sei. Gli altri lo vedono? Sì. Ah, sì, okay. Sì. Poi c'è l'unico che dovrebbe vederlo, non lo vede. Forse no, è che stavo spostando finestre, quindi mi sarebbe... Ah, sbaglio. Ok, aspetta, te lo rifaccio. Op. Provo a rifartelo. Meglio? Sì. Molto bello l'occhione, mi inchino l'occhione. Ah, l'avete già lasciato perdere l'occhione per il momento, eravate entrati in questa stanza e eravate partiti poi dalla stanza dell'occhione. Occhione che vi aveva detto che in una stanza limitrofa avreste trovato poi un portale che vi avrebbe portato potenzialmente da una guida che sapeva come portarvi alla casa. E c'era un modo per tornare qua? In caso, cioè il portale è double fast o no? Non avete chiesto, non ve l'ha detto. Che noi siamo dei geni, ovviamente, quando manca il sasso. E perché... in realtà c'è una guida che ci dice le cose, quindi chiederemo la guida. No, c'è un portale che ti porta dalla guida. Tu prendi il portale, vai dalla guida, ma se la guida non ti aiuta dopo e non puoi tornare qua, che cacchio fai? Perché puoi ritornare qua? L'importante è avere la casa. No, in realtà l'importante è che Meras ci dia i nostri soldi. Esatto, Meras vi dice: comprendo che voi siate particolarmente attaccati a questa casa, ma ricordatevi che abbiamo degli affari da concludere prima, dobbiamo trovare il fungo, certo. Il fungo. E vedete che tutto è citato perché gli ha detto che non era lontano. Infatti, questo occhio vi aveva detto che il fungo era a portata di mano, quindi Meres è particolarmente esagitato. Esatto. Beh, io chiederei agli altri di riposarci comunque un attimo qui, visto che è un buon punto di riposo. E nel frattempo... Ah no, sto benissimo. No, oh, come? Sì, io ho uno in intelletto, quindi preferirei... Allora io mi riposerei un'oretta, che ne dite? Sì, un'azione un'oretta va bene. 10 minuti. Dai su bello. Yeah, 85. Un'oretta anch'io. Sei. E poi faccio così. Sì, è solo per l'intelletto, perché il resto ce l'avevamo curato tutti. Sì. Ah, Master, io ho un PX in più rispetto a quelli segnati su Roll20, Ok, mi fido. Io ne ho due in più. Mi fido meno. solo per il tono, mi fido leggermente solo per il tono. Perché ne hai uno in più, Scalda? Ho visto che funzionava, scusa, lo faccio anche io. Non ti preoccupare, adesso sì, ma il master ha difficoltà 10 per contro inganno, quindi... perché avevi dato un PX è come l'occhio a quelli della scorsa sessione e un PX a me per un intrusion che avevi fatto un intrusion per ognuno. Ok, sì. Qualcuno mi aveva dato dei PX per caso. Sì, hai dei PX in più, giusto? Serio? Ok, non so. Sì, uno. Sì, sono GM Intrusion. Cioè, uno te l'ha dato Steel. Vedi, che sono buono io. Sì, per quello che è successo tra di voi. È amore anche questo. Io voglio bene, ai suoi cristalli. Sì, poi non so come ve la siete risolta allora alla fine la scenetta. Lui mi ha guardato e non ha detto niente. Se vuole ritornare sull'argomento... No, ma adesso avete un'ora durante la quale vi riposate in sostanza, quindi eventualmente se volete ridiscutere sull'argomento potete farlo. Ma io no. A te conviene. Potrei avere da dire una parolina o due. Sì? Ah, ma quindi alla fin fine non gli hai detto niente? L'XP in più, ma retroattivamente no, eravate troppo nel fuoco dell'azione, non gli ha detto niente, però adesso potenzialmente potrebbe dirgli qualcosa. Dimmi, scusa? Mi ciuccio l'XP in più, se posso. Non posso. In che senso? In che senso ti ciucci? È già contabilizzato, in teoria. Ah, ok. Vabbè. Sì, sì. Allora commento di no, va bene, non ci speravo. Dopo... Comunque stasera vi arrivano degli XP, non vi preoccupate. Volevo darli stasera perché in teoria c'eravate tutti, ma non ci siete tutti, quindi gli altri che darò in più dopo li segnerà in un secondo momento. Sì, e bisogna ricordarsi, siccome ci stiamo riposando, la nausea ci passa? Esatto, vi passa. Nausea? Sì, perché abbiamo fatto il teletrasporto e allora ci siamo nauseati. Ah, ok. E Meras è contento, comunque si sta studiando il frutto dell'algona predatrice, sì? Contento? Sì, lui è lì, è statico, sta in pratica non vi sta troppo parlando perché è concentrato sui suoi studi, vedete che è una specie di lavagnetta sulla quale sta prendendo degli appunti sull'alga, già sul comportamento che l'alga ha avuto quando l'avete incontrata, ma vedete che ti tratta con particolare cura questo uovo. Bene. Posso guardare in giro? Ma dove siamo adesso? In un corridoio o in una stanzina? Allora, siete arrivati in una stanzina, giusto appena poco dopo la... Posso cercare se c'è qualcosa di interessante? Certo. Ok. Tiro con la mia abilità giornaliera. Perfetto. Guarda, in questa stanza in particolare non c'è niente. Senti dell'umidità e nell'aria senti come come un odore di diciamo di sottoscala, di Ah, ok. cantina, qualcosa del genere. Stantio. Stantio, esatto. Ok. Dalla stanza c'è un corto corridoio, che si avvia più in là verso il buio. Mi siedo a fianco a Steel mentre riposiamo. Io mi metto davanti a loro per godermi la scena. Se c'è una scena. No, io sono molto tranquillo e Gli metto un sereno. braccio attorno al collo e lo abbraccio. Ehi, vacci piano, cos'è tutto questo affetto per gli amici? Riguardo Dobbiamo parlare. a... Aspetta che mi sto strozzando mangiando mozzarelline. Il sasso che si È lì che sta strozza. sgranocchiando dei pezzettini di cristallo. Ogni un pezzettino di cristallo gli va di traverso. Esatto. Quello che hai fatto prima, la prossima volta, lascia che sia io a farlo, cioè chiedi a me, perché la situazione potrebbe essere facilmente male interpretabile. Bah, no, non capisco a cosa ti riferisci. Tutto il mio popolo è stato massacrato per rubare i nostri cristalli, quindi non ha portato alla memoria piacevoli eventi. Ma non, davvero non capisco da cosa ti riferisci. Forse il fatto che stavi saccheggiando il mio cadavere. Quando? Non è mai successo una cosa simile. Io metto la mano davanti alla bocca con la faccia più scioccata che possa fare. Io tossisco, Fittissimo. io tossisco, faccio. Ma voi non avete visto, gli altri non hanno visto la cosa. Appunto, ma infatti ti stavo Vero, ascoltando. io ho Io visto. Ha ragione, ha ragione. Sì, tu avevi visto, esatto. Io sto ascoltando, per quello metto la mano davanti alla bocca. Era uno shock che stavi avendo in M pratica. molto insospettabile, esatto. Esatto. E io guardo Enet e gli faccio tutto ok. Sì, sono ancora un po' scioccata dallo scontro con le alghe. Sì, tutto bene, grazie. Voi, tutto bene? E Steel, tu ti sei ripreso? Stavi quasi per morire. Tutto a posto. Sì. Usare il teletrasporto è stata la scelta migliore, stiamo tutti meglio. Lo abbraccio un po' di più e gli faccio la netta. Sta ancora cercando di morire, sembra. Rischiando. Ah, davvero? Dici? Ma no, non penso, via. Ma chissà cosa avrà mai fatto. Dipende da quanto mi calmo. E io cerco di distrarre tutti dicendo: Ma la vedete anche voi quella luce laggiù? E indico il punto più lontano della stanza. Mi metto ovviamente a cercarla dal mio intelletto 7. C'è un Della... corridoio buio, ma in effetti ogni tanto c'è qualche scintillio, come Ehi, aspetta. una leggera luminescenza, ma ha proprio appena accennata. Hai ragione. Nico, vai a controllare. Io? Tu ci vedi Sei tu bene? quella che vede il buio. Mi sono appena guarita il cervello, cioè, e mi mandate già ad esplorare. Si tratta di esplorare, solo a capire cosa c'è, magari è solo Non una posso fare lucciola. intelletto da qui, scusate. Cioè, non posso aguzzare la vista da qua o devo per forza avvicinarmi? Cioè, è tanto distante sto corridoio oppure Diciamo che è una ventina di metri. Vedi un accenno di stanza. Diciamo che il corridoio curva leggermente sulla destra, e quindi vedi che in fondo al corridoio sembra esserci Ah, c'è una stanza. una larga stanza, sì. No, preferirei attendere qui visto che l'occhio ha detto che i funghi sono vicini. Non vorrei fare la fine di essere strozzata o strangolata da un fungo come qualcuno ha già dato dimostrazione prima. Si trattava di tutt'altra cosa. Comunque, se vuoi Oh ti sì, ma accompagno io. era sempre una pianta. Infatti, i funghi non sono piante. No, sono un mix. ragione. No, Io non ci ho vedi fatto che solo attira caso per questa cosa. l'attenzione, c'è il professore che vi fa una spiegazione in dettaglio. No, in effetti non sono, sono dei miceti, ma no. Come Esatto. dire, in Il professore mi dolorosi fa dei danni dettaglio mentali. sulla esatto, sono proprio, ma in dolorosi dettagli sulla differenza fra funghi e piante. E Sì, dice, in flora e effetti fauna. è quasi più vicino a una creatura animale piuttosto che Sì, è a una metà via, pianta. dai. I Ma funghi che sono. bellissime parole! Andiamo a vedere che cos'è questo scintillio. E mi incammino, non abbiamo torce, abbiamo solo il mega coso, il mega faro, giusto? Allora, avevate anche nei vostri zaini che avete con voi, vi avevano fornito una copertura protettiva, quindi eventualmente se volete delle torce avete anche delle torce. Sì, Steel, però io non ti farei andare per primo. No, andiamo tutti insieme, forza ragazzi, non ne potevo più di Ma se ascoltare finisci Jack che le parla orecchie di... di riposo, però. Sì, beh, penso che abbiamo superato, no? L'ora di riposo. Sì, Sì, cioè, assolutamente. siamo dopo, dai, posto. L'importante è che se non ci siamo tutti nel corridoio non stia per primo Steel perché è un problema. Il corridoio è largo tipo 3 metri, quindi ci state in 3 o 4 più o meno. Ok. Beh, Tanto comunque che. vado davanti io, non è che problema. Sì, ecco. Io mi metto vicino a Locrin e Ok, agli io ottoni. direi di non illuminare subito con il nostro devoto gigante. Magari andiamo un po' di soppiatto, cerchiamo di capire cosa si nasconde qui. Soppiatto e me non vanno molto nello stesso caso, però. Allora, qualcuno vada di furtivo. Vai. Non ce l'ho furtività io, cioè vado così, lo dico e basta, Ho un non è. doppio malus, vedete. Ah, ok. Vabbè, allora io vado in avanti di qualche metro, Ok, vai in tipo avanti. 5. Ok. Ok, Tipo avanzi nel 5 metri. corridoio e vedi l'entrata del corridoio. Sembra esserci una grande stanza. Con lungo i muri quello che sembra essere una specie di sostanza grigiastra. Inoltre nella stanza vedi anche una specie di struttura, aspetta, una specie dei piloni, dunque, diciamo, guarda, non ho una tablet grafica, quindi immaginate che questa sia la stanza. Così in 3D. Opp. È in 3D sta cosa? È più o meno. Sì. Scusa, è bellissimo. C'è qualcosa che non va nelle proporzioni, ma immaginatevi che sia più o meno così. Allora, qua sulle pareti c'è sta Ma quella sotto è una fuffa. tasca segreta? No, Ma no, dove? è Ma la dove stanza stai? in isometria Sì, ma mal aspetta, disegnata cioè, in sostanza. dov'è l'entrata? Davanti a voi. Okay, immaginate che. Aspetta, No, cioè, ma in nel 3D disegno. questa è tipo l'entrata è qua. Immaginate che Ah. sto cubo disegnato strano sia la stanza, solo per disegnarvi quello che c'è in mezzo, c'è una specie di arco di coso fatto così, quindi in sbieco, Ok. che non è veramente così. Beh, direi chiarissimo. Esatto. Dunque, toglietevi dalla testa il disegno che ho appena fatto, scordatelo, c'è in pratica una specie di arco nel Arco. mezzo, ma è in sbieco. Cioè, quindi non è Ok. un arco diritto, è come se stesse protrudendo in sbieco dal terreno. Posso fare un check, uno scan sull'area con questo arco Sì, io rosso gli dico a di tutti di venire in Dunque, avanti. la stanza è più o meno 9 metri su 9 metri. 9 Fino a metri che su 9. distanza arriva il tuo. 3 metri cubi. Sì, ma a che distanza puoi lanciarlo? Ah, pardon. Voilà. Dieci piedi. There must be short range 15 metri, quindi sì, puoi lanciarlo. Va bene. E mi faccio i primi 3 metri cubi sperando di prendere l'arco. Ok, lo miri sull'arco. Fai un tiro di intelletto. Di Numenera va bene. Sì. Che bello cominciare così. Difficoltà 3. Perfetto, aspetta. Dai. Dunque. Vedi lo stesso Allora, disegno? beh, vedi che c'è un po' di. C'è, esatto, nella tua testa si forma uno strano disegno con un'isometria strana e non euclidiana. Sai che qualche forma di Numenera. Vedi che c'è dell'energia che passa dentro, ma non distingui esattamente cosa faccia. Sembra che non sia alimentato, qualsiasi cosa sia. Quindi è spento. È spento e sembra non essere alimentato, non essere in funzione, non avere energia in questo momento. Ma adesso questa stanza. Ah, ok, ma è chiusa questa stanza? No, vedete che poi c'è un corridoio che prosegue Ah, dall'altra parte. che fosse questo il portale di cui parlava l'occhio. Sì, Però è spento. potrebbe essere. Io provo a guardare se questa stanza ha delle altre uscite. Sì, c'è Sì. un'altra stizza che continua. C'è un lato Beh, sinistro. io tiro un cercare per cercare cioè dei dettagli che magari possono sfuggire, ci provo lo Ok, stesso. intanto il professore è dietro. Sì, ok, non ho visto niente. Non ti sembra vedere niente di particolare. vabbè, io urlo, c'è nessuno? Non c'è risposta. Poi. Nico, Ah, mi dov'è guardo in che giro anch'io, mi guardo cercavi? cosa? Da dov'è che cercavi? Cioè, dentro la stanza o... Sì, cercavo dentro la Ah, stanza. ok, perfetto. Quando entri dentro la stanza, Qua. c'è il professore che avanza un po' e ti dice: Brava, l'hai trovata! Ti Oh, giri? è fuori. Esatto, vedi che la sostanza grigiastra che c'era sul muro è il fungo. Vedi che Ok. col tuo passaggio di fianco alla porta, vedi che in pratica cresce a una velocità tale che vieni inglobata Bene. dal fungo. In Che pratica gioia. hai reagito al fatto. Ti sei resa conto che Sunir non l'ha fatto, perché era vicino a te. Ma la prima Ok. creatura organica che è passata lì vicino, in pratica si è inglobata e vedi che in pratica viene ricoperta, non vedi più niente, cioè se in pratica ricoperta da una specie di massa grigia che sta iniziando a, tra l'altro, a impedirti di respirare. Ok, l'importante è che non mi facesse fuori i vestiti. Visto che Non siamo in unanime. E che ne so Allora, io? no, è esattamente quello che sta succedendo. Sta iniziando a digerirti. Oh mamma. Ah, ok. Beh, fate l'iniziativa. Of course. Il bonus circostanziale che hai dato, possiamo usare prima o dopo il tiro? Puoi usarlo prima del tiro, prima del tiro. Prima del tiro, No, andiamo lì. aspetta, qual era il bonus? Non me lo ricordo già No, più. l'ho dato a Skald Ah, ed è una carta, tipo una specie di carta Joker, come se fosse un cipher, e il suo è in caso debba ok. fare un coso di movimento a un bonus. Ok. Ok, quanto avete Non fatto ho all'inizio? sessione. Non ho sessione del token. Vabbè, tre. Chi ha fatto più di 5 di livello 5 come iniziativa? Figuriamoci. Io ho fatto Ok, 16. Io perfetto. ho fatto Anche 15 Nico, sì. Dunque, voi due più potete fare 3. qualcosa. Ok. Ok, vabbè, ho un esperto di funghi a fianco e ho una Scusa, moria di ossasso. Nico, fammi Sì? una speed defense prima. Non sei ancora ingluttita. vedi che inizia a crescerti dentro, ma c'è ancora uno spiraglio attraverso il quale potresti scappare. Metto effort. Posso, giusto? Mm-hmm, certo. Anche se sono trained, giusto? Anche se sei trained, certo. Ah, ok, sì, è doppio, quindi. Mm-hmm. Giusto? Ok, sì. Perfetto. Allora, quindi fai difficoltà 5, esattamente quello che serviva. In pratica, se ti sei scansato all'ultimo momento, si stava richiudendo intorno a te e c'era uno spiraglio di largo tipo una spanna e ti sei in pratica infilata in questa apertura. Super Nico! Sei riuscita a evitare. Quindi tu hai fatto la tua azione, starebbe a Nir, non Ezra. Fuoco e fiamme! Ma sei uscita, scusa, piano? Sì. Ah, sì. Ok. In pratica, immaginati dal muro, c'è stata una specie di crescita, come se ci sia stata una moltiplicazione di una di queste sostanze che sono sul muro di sinistra, e ha cercato di inglobarla, ma si è scansata giusto in tempo. Ma okay. lo chiedo un attimo così, perché non me lo ricordo più. Il tizio aveva detto di prenderlo praticamente vivo? Non avevate parlato. Avete solo parlato di recuperare un campione. Quando starà lui, e lui è l'ultimo della lista, vi dirà eventualmente se... Ah, okay. No, a me sembrava che avesse detto che era meglio vivo piuttosto anche che... Anche a me sembrava, sì. Ma urlo al tizio, al porca vacca, non mi ricordo il nome. Maeras, grazie. Quanto grosso ti serve il pezzo di questa cosa che sto per staccare? Vedi che in pratica lo sluccichio negli occhi, più grosso è, meglio è. Che figo. Aspetta, che ho push tutto fastidioso. Vabbè, prendo due per poter stordire un... Stordiscilo! No. Prendo il cowl. Che la sciona. Oh, ma adesso usare il cowl fuori dall'acqua. Hai una penalità. Puoi usarlo, ma è più difficile perché è bilanciato apposta per l'acqua. E allora vado di maglio. Mm-hmm. Piglio il maglio e mi ci fiondo. È grosso sto coso, giusto? Sì. Beh, è tipo taglia umana, si è replicato a taglia umana. Ah, ok. Va bene. E allora fai il personaggio. Va buono, facciamo che... Anzi, facciamo così. Gli tiro banalmente un pugno a sta cosa. Mm-hmm. Vai pure. Metto un effort sui danni e un effort sul tiro per colpire. Ok. Vedi che è praticamente immobile, quindi... Sì, a proposito, cioè si muove questo coso oppure no? No, per il momento hai visto solo che ha cercato di intorniarti. Lo prendi. Ma solo nel momento in cui sono andata a contatto, sbaglio? Ti sei avvicinata, diciamo, a una delle pareti. Ah, okay. E quello che c'era sulla parete è cresciuta così in... Ah, ok. Lo prendi, Nir. Ok, 5 danni. Ok, gli fa 5 danni. Vedi che dai un pugno nel muro in pratica e vedi che schiacci parte di questo fungo. Vedi che cadono dei pezzi per terra e sono dei pezzi inerti. Okay. Cioè e il resto della parete si muove ancora, immagino. Il resto della parete... Nico, descrivimi cosa hai fatto. Hai fatto una speed defense e sei uscita dalla... Sì, sì, più lontano possibile da quei cosi. Ok, non si muove. Comunque ce l'aveva detto... Dottore. Ma chi è che ce l'aveva detto che comunque questo coso era pericoloso perché si appunto continuava a replicarsi? Era il dottore che l'aveva detto. Ah, ok, ce l'aveva detto il dottore, ok, perfetto. Sì. Chi sta adesso? Che credo io. Mm-hmm. Cosa fai? Io uso uno dei miei cipher intanto, che era... Ah no, cazzo, l'altro tipo, cosa? No, niente, non uso niente. Mm-hmm. E, Certo, cioè, vorrei prendere il fungo tagliandolo con la catrana, però è troppo rischioso, sono già stato inglobato un po' troppo, quindi prendo Meras e lo allontano dal fungo. Ok, vedi che Meras si allontana con te. Einet. E domanda. Io ho l'artefatto della tasca dimensionale, se non so come si chiama esattamente. Prima o poi bisogna... Tasca dimensionale. Ah, ok, poco di meno. Posso provare a metterlo, ficcarlo dentro, in che modo? Cioè, è già troppo grosso? Puoi provare, sì. Certo, puoi provare. Certo. Allora, vorrei puntare sull'agilità per usare il task, cioè il bonus magari di Mind Impediments. Ok. Che mi abbassa di 1 la DC. Ok. E... che tipo di tiro è? Guarda, è un tiro di speed, semplice, difficoltà 3. 3 che diventa 2 o 4 che diventa 3 che diventa 2? Allora, io ci uso anche un effort. Ok. Ecco, fatto. Perfetto. Sì. Ok. Non sono riuscito a metterlo dentro. Oui. Esattamente. Lo vuoi una cimentura? E vai stasi. di che vagamente? Allora, mentre passi dalla porta e in pratica ne prendi un pezzo di quello che c'è sul muro e lo metti nella borsa, ti rendi conto che comunque è un'entità che prende un bel po' di posto sulla, quindi c'è un po' su tutte le pareti. C'è un altro pezzo che reagisce col fatto che tu sia fatta di carne e cerca di inglobarti. Quindi ne è estratto un campione, se vuoi, ma è una specie di macroorganismo che è un po' dappertutto nella stanza. Senti, prendiamo sto... Sì, se no devo pagare un PX. Prendo l'intrusion e la do a... Chi ha meno PX? Nir. Ok. Ok. Ti ho dato gli XP e fammi una speed defense a difficoltà 5 per evitare di essere inglobato. Quindi adesso ne ho 3, eh? Adesso? Perché ti ricordi che non mi hai aggiornato. Sì. Okay. Allora, quindi il no impediments l'ho usato sul check di prima, non ce l'ho più e lo cancello. Speed defense, uso un effort. Ok. E sono addestrata. Meno male. Quindi perfetto. Sono 4, 5, difficoltà 5. Perfetto, esattamente. Anche tu proprio ti sei reso conto all'ultimo istante che dal muro continuava a crescere questa specie di fungo e ti sei rifugiata, diciamo hai fatto un salto indietro nel corridoio e hai evitato di essere inglobata. Però hai visto comunque c'è stata questa crescita improvvisa di fungo. Ok, dico l'ho preso! Sì, grande! Vedi che è alle stelle, il professore tipo salta sul posto come se fosse quasi un bambinetto, è talmente contento di aver recuperato. Socchiudo gli occhi e dico, però non so se te lo meriti. Dico scherzando. E vedi che lì che allunga le mani, si frega le mani e intanto gli altri cosa fanno? Sta a Nir. Nir, sei in mezzo alla stanza tu. In questo momento ti guardi in giro, sì, non c'è nessun movimento. Meglio. Ci sono i miei amici o c'è nessun movimento? No, sono... gli altri sono fuori. In questo momento sei l'unico ad essere nella stanza. Okay, vedi, però mi sono perso sto turno per colpa del gatto. Per ok. Gli altri sono entrati e scusa, c'è Steel che è arretrato proteggendo il sacco con i soldi, il professore voglio dire. Einet è entrata con la Pocket Dimension per in pratica catturare il fungo. Okay. E anche lei ha rischiato di farsi inglobare, ma okay. È proprio entrata, l'ha messo dentro e poi è uscita. Perfetto. Voglio vedere Sei come tu farai a in. tirarlo fuori da lì, sarà molto bello, però. Ci sei tu, è in mezzo alla stanza, c'è questa struttura che Einat aveva riconosciuto come essere numenerica e vedete che le pareti intorno sono ricoperte da questo fungo. C'è ancora il fungaccio in giro, se ci avviciniamo alle pareti. Tu sei vicino alla parete, però Non mi bada, meglio. non Mi ti piace bada, sì. questa cosa. Nico, tu noti che aveva. No, niente, c'è un pezzettino del fungo che ti aveva sfiorato, diciamo, una manica, e Sì. vedete, te l'ha leggermente scolorata, come se un processo digestivo fosse entrato in atto. Comincio a piangiucchiare in un angolo. Com'è che si chiama? Come si dice? Professor Meras, ma per caso ha un contenitore dove contenere questo fungo oppure? Ti dice sì, in effetti vedi che tira fuori E non dallo potevo zaino che aveva tirarlo creato. fuori forse prima? E non mi Anche aspettavo che questo. uscisse così all'improvviso. Vedi che tira fuori una specie di giara in vetro con una chiusura tipo un tappo. E ti dice: questo qua dovrebbe essere sufficiente a contenere il campione che mi avete dato. Ok, quindi una volta al sicuro forse è il caso di farlo adesso. Sì, facciamolo adesso, non sulla nave, che non si sa mai. Sì, direi di allontanarmi. Vedi che Locrin, che è la tizia con i capelli lunghi e la tuta da pesce, si avvicina e anche lei incuriosita dà un'occhiata a quello che sta succedendo. Ma se volete lo travaso io, che tanto sembra non essere aggressivo nei miei confronti. Ah, giusto. Non stringere troppo forte il vasetto. No, vedete che è di un vetro piuttosto spesso comunque. Cioè, se E mi dà. soprattutto dipende da che mani ha. Mir. Non so che mani ha. Dettagli, ma tipo quelle delle tartarughe ninja, misto uovo di roccia. Ok. Hai il pollice opponibile? Forse, Ah. magari ne ho due. Sì, tieni il martellone, quindi sei opponibile per forza. Niente, svuoto il Pocket Dimension. Gli altri si allontanano e vedi che il professore sta prendendo delle note, tra l'altro. Sta notando il fatto che non reagisca alla tua presenza. Probabilmente adesso ti vogliono con loro. Magari non reagisci a metà delle Diventare un piante, giusto? cacciatore di funghi professionale. Esatto. Una volta che gliel'hai messo nella giara, vedi che si avvicina e vedi che il fungo ha comunque una reazione, come se cercasse di espandersi, ma vedi che è bloccato dal tappo. Sembra reggere comunque. Sì. Vabbè. E ciao, Ora perfetto. immagino che dovrò portare anche sta roba. Lui ti dice: guarda, no, credo che il tappo sia sufficientemente come dire, robusto per contenere il campione. Sì, ma lo porto io sta giara o te la porti tu? Oh no, vedi che se la mette nello zaino, ti dice, non c'è problema, Ah, porta nello ok. zaino. Non è troppo pesante, ne ha staccato, è netta, ne ha staccato un Ok. pezzo piccolino, diciamo. Ecco perché alla velocità con cui si riproduce non c'è bisogno di avere un pezzo grosso. Eh sì. E posso riprovare con un effort capire come attivare il portale? Cioè, rifare lo stesso ciclo, Beh, da senza un effort. lontano è un po' difficile. Dovresti avvicinarsi al portale per vedere come attivarlo. Beh, possiamo mandare magari. Kinir. Ecco cosa, scusa. Sì, appunto. Potremmo mandare Nir a vedere il portale D'altra per parte. descrivercelo bene. Ok. Ci incapperò dentro, sicuro. Okay. Ti avvicini e vedi che in pratica è una struttura chiaramente fatta in numenera, in synth e altri materiali che non riesci troppo bene a distinguere. Vedi che è messa un po' ad angolo e hai qualcosa in numenera? Intelletto puro. Ok, ci guardi e gli dici: è un coso fatto di numenera e non è dritto. Questo è più o meno, come dire, Scusa, la il descrizione. dettaglio al quale puoi arrivare con le tue conoscenze. Io Se annuisco ne come per capire, come se stessi capendo perfettamente di cosa stia parlando. Ed è era spento. ma giusta. Non so che è spento. Sì, vedi, non fa le lucine, quindi secondo te è spento. Esatto. E posso provare a dare il cavo di metallo rigido, quello di energia, a Nir, perché vorrei vedere che cosa fa a contatto con il fungo. Non si sa mai che apra una strada, magari gli dà fastidio, che ne so. Ecco, Cioè, allora glielo se parlo. Nir viene Infatti, fuori sto a coso. prenderlo, Sì, sì. sì, vai. Accontentiamo anche le foglie di Nico. Bau, bau, bau, bau, vieni qui. Vado a prendere il palo L'osso. elettrico e vado verso la parete da pungolo. E beh, vedi che in pratica necrotizza il fungo. Vedi che gli dà delle scariche elettriche e sembra che il fungo sì, inizia un po' a fumare come se non gli piacesse. Interessante. Lo rendo amico. Ok. Abbraccio amorevolmente il mio cavo di metallo rigido. Pensavo io, grazie. Perché tu? Ho fatto io il lavoro. Beh, ma è il coso che ha elettrizzato i funghi. Una collaborazione. Io chiedo a Meras se c'è un modo di passare attraverso a questo fungo senza essere inglobati, se c'è un modo per ucciderlo facilmente, se funziona come altri funghi, insomma. Lui no, non è proprio entusiasta all'idea di uccidere queste piante alla base. Ti dice, mi piacerebbe più che altro preservarle. È l'unico? Pensa che sia l'unica stanza in cui sia presente questo fungo? No, in effetti no. Quindi una stanza è anche sacrificabile. Sì, ma stare Fai qua a fai una prova passare di tutta la convincimento. stanza non è così. Fai una prova di convincere, una prova di interazione sociale. Sì, che non ho niente, quindi. Dodici, dodici, quattro, difficoltà quattro. Ti dice sì, in effetti, guarda, o con del fuoco o con dell'elettricità dovrebbe essere sufficiente per pulire. Sì, In ma generale i quanto più funghi entriamo? risultano male. Per il momento il fungo è su due pareti, non è Ah, tutta la ok. stanza che è riempita. Vedi come se ci fossero delle macchie, immaginati un paio di macchie da Sì. un paio di metri sui due muri. In 10 minuti il gioco è fatto, se volete sbarazzarvi di questo fungo. Ho un Io campione allora del fungo che c'è, quindi non mi faccio riprestare il palo elettrico da Nico e vado in giro a pungolare le masse carnose. Ok, trattalo con cura. Dopo una decina di minuti, in pratica, hai sfrigolato un po' tutti i muri e vedi che non c'è più altra massa vivente nella stanza. Dovrebbe essere sicuro. Perfetto. Fammi una prova di percezione. Perché vediamo Penso. se il gatto mi lascia raggiungere il mouse. Perfetto, se hai l'assoluta certezza che non ci siano altri funghi in giro. Perfetto. Io tiro un cercare. Ok. Cerco qualcosa di interessante oltre al fungo, ecco. Fai una prova. Ma Io mi basta, riavvicino troppo all'arco. basso. Perfetto. Dunque, tirami un attimo un. E per caso c'era qualcosa nelle zone bruciacchiate dove bruciato esce qualcosa di non organico? Magari ha fagocitato qualcosa e è rimasto lì. No, Anche non scoraggiamento. trovate niente all'interno del fungo, era veramente proprio solo una macchia, immaginati una macchia di muffa sul muro, quindi Ah, era ok. abbastanza. Tiratemi un dado da 100. Ok, tutti. Nico. Io. Nico che mi ha detto che cercava, e quindi 19. Matteo, 19. Ok. Che basso. Oh, ma non cambia niente, è solo. Non è più alto, è più forte, eh? No, lo Quindi. so, però. Allora, tira un dado da 100 di nuovo. Ok. Ho tirato. Ok. 84, questo è alto, dai. Sento più fortunata con i numeri alti che con quelli bassi. E è strano, c'è per terra una sciarpa. Che malgrado tutta la sporcizia che qua in giro sembra essere estremamente pulita. Sembra tra l'altro una sciarpa di seta. La prendo. Hai in mano una sciarpa di seta che è pulita. Ok. Devo metterlo nell'ODT. Sì, mettiti un oddity, in pratica una sciarpa di seta Che ti strangola mentre dormi. Ma Che dai. per il momento ti sembra solo pulita. Cioè, Ok. hai le mani un po' sporche perché avete combattuto, eccetera, eccetera. Vedi che ci passi le mani sporche sopra, ma ti sembra restare pulita. Ok. Oh, fantastico, lo voglio questa. Facci un Passami asterisco altri sopra così. cristalli. Che resta pulita. Facci anche un asterisco. Pulita più asterisco. Ok. Aspetta perché ho la tastiera americana, non mi perdo qui. Più Ups. trattino, più punto di interrogazione, Sì, quello. dai. Più Scrivi più dentro. Einet. Esatto. Perché? Perché Ma la non l'ho pietra trovato! angolare. Vabbè, anch'io faccio un cercare, vedo se c'è qualcos'altro intanto. Eh sì, adesso Sono voglio. tutto vicino al portale, insomma. Vai pure. Comunque ho un sacco di ottici. Ne ho già tre. Ok, vedi che trovi un pannello, quello che sembrerebbe un pannello di controllo vicino al portale. Torno subito io, voi Sì. Io continuate. non trovo un bel niente. Trovi il portale. C'è uno scongegno enorme, wow. Che bel portale, userò un effort per fare un nuovo check. Io. Ah, ok, sì, 4 aspetta, aspetta. battuto di C7. Ok. Trovi, ti tiro un dado a 6. Ovviamente. Trovi uno shin per terra. Ah, ma io cerco di capire il portale. Ah, sì, bonus, trovi anche uno shin per terra. Ti sei abbassato e hai visto Ok. che di fianco al Tutto portale. Dunque, fa bravo. se vuoi vedere il portale, capire come funziona, fammi piuttosto una prova di Numenera. Ah, è 7 ho fatto, quella di prima. Ok. Ah, scusa. Ok, No, ti sembra tranquillo. che ci sono. Che sia un generatore di qualche tipo di trasferimento di materia, una specie di teletrasporto, se Ah, e infatti, vuoi. E quindi sembra questo è il trasportare tutto portale. quello che in un'area designata, non sai ovviamente dove, ma ti sembra che in questo momento sia senza energia. E come può essere? Riesco a capire come fare per dargli energia? Col set che hai fatto, sì, e ti dico probabilmente se gli attaccate o un artefatto o dei cipher, Ok, ma si riuscireste. consumerebbero? Si consumerebbero, sì. Quanti cipher? Ah, questo è una buona domanda. Sai che ha bisogno di una discreta quantità di energia per poter funzionare. Non riesci a quantificarla in maniera esatta, ma ti immagini che essendo una forma di portale ha bisogno veramente di una certa forma di energia. Ok, Vabbè, io sono davanti al pannello. Lo dico agli altri, chiaramente. Ok, se decidiamo di non andare in superficie, cioè di non conseguire con gli altri la nave, ma di attraversare il portale, si potrebbe usare il Devoto, che tanto volevate venderlo in zona costiera, se non ci andiamo. No, no, io sono 4 cipher e almeno uno lo butto via molto volentieri. Sì, ma se ne devi mettere 8. Beh, intanto se vuoi posso tenertelo io, che ho spazio, ti dico. Oh, questa è un'ottima cosa. Se hai spazio, ti lascio. Sì? C'era scritto? Vuoi la più merda o vuoi una cosa buona? Ok, Quello che preferisci tu, per me è già un piccolo dono, quindi. se vuoi. allora ti do questa super merda che è il wrist launcher. Aspetta, che faccio così. Ah, bravo. E l'occhio Ok. che sciocco è perché ne avevo troppi. Fantastico. Pensavo, magari è un occhio che esplode. Vabbè, insomma, lancio un piccolo oggetto e fa quella cosa. Un bracciale, Ma dai. quindi in Beh, sostanza? almeno hai qualcosa da combattere, visto che Sì, sono io. grazie. In sostanza? Level 4 però, non 1, Cosa 4. dobbiamo fare? Allora, ti spiego che ho analizzato il portale e ti dico, Nico, ho scoperto tutto di questo portale. Ti dico tutta contenta. In pratica, è effettivamente il portale che teletrasporta tutti quelli che sono in zona, solo che al Fantastico. momento è privo di energia e per poterlo attivare occorre collegarci o un artefatto, e in caso ce l'abbiamo perché è questa tasca dimensionale che ho usato per prendere il fungo, o altrimenti qualche cipher, però non so dirti ancora bene quanti, però siccome l'energia per attivarlo è notevole, presumo che ce ne vogliono un po' di cipher. Beh, io ne ho due se volete. Da buttare. Cioè, che non mi sono serviti, ma Io, sì. vabbè, quello che ti ho dato è un po' una merda, quindi quello che ho dato a Enet, sì. alla fine non è che sia, cioè, è sacrificabile, insomma. Ma per, cioè, l'artefatto utilizzandolo sul portale andrebbe a... Beh, comunque sì. Va Presumibilmente sì. a carica dagli energia, praticamente. Quindi magari si scarica l'artefatto. Sì. Ah. Un'altra cosa che ti posso dire, Einet, è che guardandogli capisci che dopo l'attivazione ha bisogno di caricare l'energia della quale dispone. Ci vorrà forse 1 minuto o 2, durante il quale si carica e poi l'effetto del portale si attiva. Quindi c'è un periodo nel Riferisco. quale. Riferisco agli altri. Ma quanti, scusa, quanti cipher servono? Non sono riuscito a capirlo, No, ok. però so che sicuramente un artefatto, e lo abbiamo, Il devoto. la tasca dimensionale del fungo, che è un artefatto, quello potrebbe andare bene, però il problema è che tutto quello Ma che ci vuoi collegherà, friggere la tasca dimensionale? sì, in caso riuscirebbe a dargli l'energia sufficiente, però tutto Ah, quello ma che. friggiamo il devoto, scusa. Ma è un artefatto? Non è un artefatto il devoto? Sì. Ah, è un artefatto? Ah, perdono. Ok, allora sì. Comunque sia, sì, viene consumato l'oggetto che eroga energia. Ma abbiamo speso 25 shim per quello. No, ma Io... scusa, ma E aspetta. abbiamo pure mostrato le tette, non possiamo No, bruciarlo. è inutile che questi tuoi scherzi No, infantili, ma questi tuoi scherzi comunque. infantili, basta, Quali Nico, scherzi infantili, hai detto? Ci abbiamo rimesso le tette 25 shim, non possiamo darlo via così. Beh, No, sei tu che hai voluto mostrarle a quella creatura acquatica. io Beh, comunque dovremmo prima tornare per completare questa missione, volendo potremmo ritornare. Potremmo andare alla Dorsal ricerca di Meras. tanti artefatti, di tanti cipher. La vedo dura ritornare qui in un secondo momento. Ma intanto che parlate, c'è Meras che dice: quindi non avete intenzione di riportarmi alla nave? No, tu sei il certo. nostro prigioniero. Buah! Lo dico scherzando, La ovviamente. ricompensa non ci fa male. Io gli dico scherzando, ma la ricompensa ce l'hai qui o sulla nave? Guardate, Chissà se cosa manchi di là. c'è Locrin che dice: guarda, Meran, se vuoi ti posso riaccompagnare io verso l'uscita, se mi dai un passaggio verso casa, ne approfitto così almeno. Ma in Meran, realtà sì, lui Meran guarda, in pratica vi guarda, vede che dietro ha il fungo più l'altro del resto e vi dice: guardate, non ho degli shin con me dietro, però se volete, mi sembra giusto ripagarvi. E sono vi pagato. dice: ho questo per voi se volete come pagamento. Guarda, però è netta negli occhi Sì. e ti dice: considero il fatto che mi hai salvato la vita, più il fatto che mi hai aiutato a trovare questo uovo come salvacondotto, diciamo, per gli avvenimenti passati. Porterò la mia parola ai Saracenians. Non ti garantisco l'immunità, ma ti garantisco la mia buona parola, perché vedo che avresti potuto lasciarmi morire Più e seppellire volte. questa storia. Ecco. Quindi farò il mio possibile per resterà il fatto che la prossima volta che ci incontriamo avrò bisogno di darci ulteriormente sugli avvenimenti passati, ma per il momento, diciamo, parlerò con i Saracenians per evitare tagli sulla testa. Benissimo. Quindi cosa ci ha dato? Allora, Io non l'ho ancora accettato, quindi cosa ci ha mostrato? Tu hai già preso in realtà, cioè non sei ancora. No, no, assolutamente, quel cazzo c'è una merda, io torno sulla nave e gli faccio dare tutta la sua vita e anche sua moglie. No, ma se vi ricordate, come dire, il pagamento era il passaggio a casa? Vi ricordate? Solo quello. Vero, sì, Siamo perché era diciamo una venduti ricompensa. per così poco. Sì, beh, siete tipo 2 km sott'acqua, quindi vi è parsa, come dire, una. Vi era parso una. Tirate un dado, sai? Chi è che lo tira? Tu che hai chiesto chi è che lo tira. Ah no, Ok. Tu che ormai sei il chi capo del è? gruppo. Tu che sei il capo del gruppo. L'ha già tirato Stile, il L'ha finto già capo tirato del il vero gruppo. capo del gruppo. Il finto capo. Ma tu lavora nell'ombra, così le ripercussioni capitano sempre a lui. Giusto, giusto. Infatti gli lascio sempre queste incombenze. Vi dà una grossa sfera di Sint. E vi dice: quando questa è attivata, puoi immagazzinare fino a un giorno di immagini e di suoni che si succedono intorno a questa sfera, in sostanza. Ok, quindi è una specie di videocamera. Ok. Una videocamera a 360 gradi. Che accumula un'ora totale, ma non è male. E ce lo segni. In pratica una telecamera a 360 gradi, lo attivi, registra fino a un giorno di immagini, poi la riprendi e rischiacci il bottone e ti fa rivedere l'immagine intorno alla Ma sfera. bellissimo. Sulla sfera stessa, quindi registra intorno e poi te la fa vedere poi intorno alla sfera. È un cipher questo. No, non è un artefatto. Ma che figata. È un artefatto di livello 3, purtroppo. E il depletion è 1 in un dado da 20. Ok, ragazzi, se volete. No, chi la porta? Se Potremmo usare vedete. quello. Io provo a puntare un po' più in alto. Gli dico, beh, è un oggetto interessante, però considerando anche il prezioso frutto che abbiamo recuperato oltre al fungo, direi che è una ricompensa non sufficiente. Io le prendo. Allora tu still rimani senza, noi lo useremo. Fai una prova di convincere. Devi farla alta, eh? Vabbè, ci provo, ci metto anche l'effort, tanto mi costa Ok. poco. Boom! Sì, cioè, in effetti mi avete protetto dalle alghe e anche dal resto. Ti A stare tira. così mi sento sempre una persona cattiva. Mi sento Tira. sempre a fregare la gente, cioè non so, vabbè. Tira un dato Senza da 6. tenerezza. 5, ok. Lista C, tiro un dado da 100. dodici. Può essere interessante. Vediamo un attimo. Vedo se sia, come dire, normale che possa averlo. Possibile. Tira un dado a 6. Due, ok. È un pennello di Sint, trasparente, e anche tira un dado a 6 di nuovo. No, scusa, queste sono a posto. Questa era per le sfere e questa era per il livello. Perfetto. Quindi aveva con 6 sfere di metallo. Ognuno della taglia più o meno di un pugno. Le sfere fluttuano in aria e si muovono in sostanza in un perimetro di pattugliamento deciso dall'utilizzatore. Non si muovono più di 90 metri prima di tornare al punto di partenza. E ogni sfera ha il suo pattern, ma una volta che l'hai deciso non puoi cambiarlo. E in ogni momento l'utilizzatore può vedere sul pannello di Sint quello che le sfere vedono. Quindi è una specie di Di drone. pattuglia mobile. Tipo una macchinina telecomandata con una telecameretta sopra. Tipo sei macchinine telecomandate con Sì. una telecamera sopra. Ma Quindi scusa, devo usarle tutte insieme? sì, cioè in sostanza ti fa una, come dire, sono delle Spione. telecamere di sorveglianza per le quali definisci un percorso, quindi non sono statiche. E ne hai Ok. sei e quindi puoi mandarla in giro e fargli fare una pattuglia. Comunque è un artefatto questo. È un artefatto, quindi segnatevi un XP Ah, è un ciascuno. artefatto. Eh già. Me lo Pensavo segno fosse io. un cipher. No, no, è Sembrava un troppo artefatto. figo. No, è un artefatto. Infatti. Guardate, vi do un XP a ciascuno perché è un livello 4. Yeah, passo di Ringraziate. livello. Dopo dite che sono stronzo. Ha un nome questo artefatto? Roving Eyes. Depletion Occhio in rovista uno tu. in un dado a 20. Se dopo vuoi ti incollo la descrizione. Scriviti intanto Roving Eyes. L'altro ve l'avevo detto come si chiamava? No. Ripetetemi un attimo quello che faceva. Registrava e ti faceva Per rivedere un i dati. giorno. Ok, dal registratore per un Chi lo giorno. prende quello? Cioè abbiamo Prendilo tutto. tu, Inet. Sì, infatti. Grazie, che bello. Tirate anche, scrivetevi il depletion roll. Questo qua è uno su un dado 20 e l'altro credo fosse la stessa cosa. Sì, mi sembrava avessi Sì, detto hai sangue detto non sì, tutti e scondivi. due. Sì, dimmi il Sì. nome. Data Imager, Data Imager, per l'altro. E è uno su un dado da 10. Abbiamo Uno su un tutto dado da ciò che 10. serve per girare No, un non è vero, scusate. Quello è quello che video. volevo darvi, solo che ero stato più buono e avevano dato un altro. Non mi ricordo più, quindi. Scusa, master, il I livello Spy si chiama, scusa. I Spy. per l'altro. Hai spy? Hai come occhio e spy come spia. Ma quale? Quello che registra? Quello che registra. Quello che registra l'ho preso io. Sì. Hai spy. E depression 1 in un dado da 20. E registra video e audio. E a 360 gradi. Ed era di livello 3. Dimmi. Il livello invece del mio era livello l'avevi tira livello 4. Le sfere vedono come se fosse un umano, quindi se è buio non vedono niente, eccetera eccetera. Ok, allora l'high spy l'ho preso io, confermate? Mm-hmm. Sì, sì. Okay. Ho aggiornato la scheda, sono passata al tier 2. Ah, ok. Bella. Quindi fai 0 XP. Faccio la stessa cosa, master. Ok, 0 XP. Vi frego gli XP, eh. Ah, sì, ok. No, no, vabbè, metteteli lì e cancellateli, sono più facili. Prima che li raccolga Steve. abbiamo delle sfere drone che contano le cose grazie al mio tiro da 20 con l'effort mega galattico, quindi vediamo di trattarmi con cura. Tutto che frugo tra i manuali. Io ti ho già trattato con cura, infatti non ce l'ho con te, per ringraziarti anche di come tu mi avevi coperto le spalle dentro la piramide quando ci siamo incontrati, che io non l'ho dimenticato. Lo so. Einet, chi è che si è mezzo fuso con te? Hai ragione anche tu, ma io infatti vi voglio bene a tutti, siete la mia famiglia. La sei messa male, scusa. Rimane per un attimo silenzioso, poi dice forse si mette a ridere in maniera nervosa. Che bello, tier 2. Ma volevo farvi passare un po' perché così almeno vediamo dai il passaggio al tir eccetera eccetera. Volete farlo subito il passaggio o così? Sì, secondo me sto già facendo, ma tu non lo sai, io ho già i manuali aperti, io ho già fatto tutto, ha già scritto la scheda. Sì, sì. Ma scusami, ma tu Andrea devi passare, giusto? Io non ho tolto XP, cioè a me manca un tier, se io prendo il quarto tier passo subito al 2. Sì, esatto. Sì. Cioè non è il quarto. Allora ok. Ma se prendi il quarto. Lo prendo anch'io, ma notte prendiamo tutti. 1, 2, 3, 4. Sono le sessioni che ci piacciono. E quindi a me cosa manca? Guardate, faccio così, vi do anche un XP a tutti per aver trovato, lo do anche a... Allora, facciamo così, a Dash 1, lo do anche a Dash questo qua, anche per aver in pratica portato a termine la missione e aver trovato il fungo e tutto il resto, quindi questo lo do a tutti. Ok. Ok, in più, ne do un ultimo, per aver trovato... No, questo ve lo do dopo. Ancora sì, non è fatto. Io volevo chiedere a Meras una cosa. Sì, mi avvicino un po' in disparte magari dagli altri, non proprio. Sì, Meras si sta preparando per andarsene con la donna pesce. Sì, non mi ricordo più la sua congrega, come si chiama il suo circolo. I Saracenians. Ok. Per caso, signor professore, giusto? Signor professore, per caso nella vostra vita avete dei libri che trattano di veleni? Veleni? Sì, no, veleni. In generale abbiamo dei trattati per quanto riguarda le tossine, certo, sono tutto quello che è vegetale soprattutto. Ok, perfetto. E saprebbe indicarmi dove sarebbe possibile trovare uno di questi trattati, magari in una città in particolare, oppure dice che sono facilmente reperibili, non me ne intendo, cioè. Allora, mi sto interessando in questo momento. potete chiedere la prima volta che arriverete in contatto con con un membro dei Saracenians, ditegli che avete fatto una missione per me e sono sicuro che troveremo il modo di trovare eventualmente un libro che parli di questi argomenti. Oh, Ti dice, carino. è una congrega la nostra che si trova, non è così, come dire, così comune come il papato d'Ambra, ma siamo nelle grandi città, ci trovate sicuramente. Oh, perfetto, la ringrazio. Allora gli stringo la mano, Prego, grazie conterò John. sulla sua parola. Anch'io la ringrazio e gli auguro buona fortuna per i suoi studi. Nietzsche, buona fortuna nella vostra ricerca, se ho capito bene, state cercando casa. Casa. Stiamo Casa. cercando casa. Stiamo cercando casa. Abbiamo trovato un'agenzia di viaggi che ci soddisfi ancora. Proprio disadattati. Esatto. Vi saluto, dice io adesso non sono, sono, come dire, ho troppa voglia di tornare a casa per terminare i miei studi su questo, quindi dico Ci Yadasi, buona che il nome sono. era che i vostri cipher possano continuare a funzionare. Grazie. Io volevo chiedergli dove è casa sua, che città. Ti dice sono a Uxfam. Come scritto? U X P H è scritto diverso nel truth Uxfam. U X P H PH. M. Ok. Uxfam. E io saluto anche l'altra tipa, dicendo il ciao tipa perché non mi ricordo il nome. E ti dice ciao tipo. Sì, io stringo le mani anch'io a Locrine Ah, è vero, c'è anche questo. e gli auguro una buona fortuna e un buon ritorno e la ringrazio per riportare il professore di ritorno, insomma. Non c'è problema, adesso non siamo più in grado non sono più in grado di saccheggiare da sola, quindi mi sembra più saggio tornare col buon professore. Hai ragione. È morto male il tuo compagno, ti credo. Ma che cattivo, gli amici? Sono zone pericolose. Sapeva i rischi che correva, quindi. Sì. Vedi che Io la malgrado guardo un sia po' giovane, male. sembrava scafata come esploratrice. La guardo un po' male perché non mi piace questo modo di. Ma domani, allora, volevo dire agli altri, a quelli che sono stati al Tier 2, di Sì. aumentare i recovery roll perché Già adesso fatto. bravissimi No, allora perché? aspetta, Perché è un D6 più il tuo tier. bravissimo. Esatto. Il recovery roll è un D6 più il tier. Ah, che cacchio, giusto lì. Adesso passo anch'io. Nico, spendi tutti i punti anche tu, anche quei 4 PX che ti restano lì? No, Hai ragione, no. chiedo, può essere un'ottima scelta. Mi fa paura il tuo tono. Non l'ho Non lo fatto faccio più. apposta a No, no. dartene 4 esatti, Sono assolutamente no. terrorizzata in questo momento. Beh, ma dai, potremmo spenderne noi uno per te se le cose vanno male. No, grazie. Ma No, è aspetta meglio così. te che io magari non capisco, dopo faccio il casino, non capisco un cazzo. I recovery roll diventano un D6 più 2, quindi. Esatto. Ok. Sì. Il tuo tier diventa 2. Sì, però aspetta, a me manca il quarto tier che non mi ricordo cos'è l'effort il più alto. Se non l'hai mai preso, sì. Ok, quindi vado a 2 di Se si può effort. ritirare oggetti trovati. Io devo scegliere cosa prendermi di tier 1. E posso prendere o un addestramento Allora, o i un 4 punti. piccola cosa, quando passate di tier potete eventualmente, se me lo giustificate un minimo dal punto di vista del roleplay, cambiare un'abilità che non avete mai, che non vi piace del tier 1. Quindi, per esempio, se al tier 1 avete preso, non so, a fondo e a fondo non l'avete mai utilizzato, non vi Sì, piace, sì, sì, sì. volete Che cambiare, mi dite. sono le special abilities o le skills? Le special abilities, quindi le abilità che ti vengono dal fatto che sei uno speaker, che sei un Ok. blint. Beh, ad esempio, io però al posto di quella posso prendere un'altra. Sì, in pratica la cambi, quello che nel tier 1 la cambi perché nel senso è il personaggio nuovo, non l'avevi mai usata, quindi non sapevi se era utile, quindi puoi dirmi che la cambi e ne prendi un'altra di tier 1 e in più devi prendere le abilità del tier 1. Giusto per capire cosa c'è di alternativo alla super cazzola, alla pallantina. Aspetta, vado a prendere il manuale e arrivo. Perché quello alla fine del cazzo non adesso basso sempre la difficoltà quando meno col maglio di 2. Sarai contento prima di mettere l'effort, brutta merda. Quindi adesso un effort mi costa 5? No, due effort ti costano 5 se li usi entrambi. Sì, due effort mi costano 5, sì. Meno legge. Esatto. Allora, come glint del primo tier hai estrarre informazioni, ti dico, avevamo guardato almeno 3 o 4 volte, secondo me la supercazzola era la migliore di quelle che volevi scegliere. Ti dico. Okay. Come tier 2 c'hai compagno bestia, qua sarà un tonno, quindi no, beh, nel senso, puoi prendere lo slot e appena sarà, come dire, dal punto di descrittivo come dire, plausibile, ti do il compagno. Quindi in pratica c'è una creatura di livello 2 della tua taglia più piccola che ti accompagna e ti aiuta. Calmare aggressione, puoi convincere una creatura ostile dall'evitare di attaccarti per un round. Allora, se, nel turno successivo tu o qualcun altro potete cercare di convincere la creatura dall'evitare di attaccarvi per più tempo. Però se fallisci, esatto, se fallisci però fa quello che vuoi. Sei falsa identità, convinci qualcuno che sei qualcun altro, in sostanza. Bello. ok. Ok, bomba. Poi se hai dei trucchi, dei cosi posticci è più facile, però alla base in pratica ti fai passare veramente per qualcun altro. Questo è specifico, cioè tipo non è il... tipo, puoi farti passare per il sindaco o roba del genere. Non ho capito, è così o non è così? Sì, è così. Diciamo la difficoltà di convincere che sei qualcun altro viene abbassata di uno step. Serve quando cerchi di passare attraverso una guardia o come incentivo a un travestimento fisico. Quindi non solo ti travesti da poliziotto, ma dici salve, sono un poliziotto. E quindi... ok, ce ne sono altri? Dunque, estrarre informazioni con 2 punti di intelletto. Quando sei un gruppo di persone, una caravana, un villaggio, una città, puoi chiedere intorno su una qualsiasi cosa sulla quale vuoi avere delle informazioni e in pratica ottieni delle informazioni. Puoi chiedere delle cose specifiche o puoi sapere fatti in generale. Puoi sapere anche in generale più o meno della disposizione di certe zone. Per esempio, non solo capisci se qualcuno nel posto nel quale sei ha visto il ragazzo che è scomparso, ma hai anche una conoscenza del palazzo nel quale è scomparso, noti tutte le entrate e cose del genere. Poi hai impartire ideale, dopo un'interazione con una creatura che può sentirti e capirti, gli dai un ideale temporaneo. Per esempio, sei da uno schiavista e riesci a convincerlo in maniera temporanea che tutti devono essere liberi e gli impartisci questo ideale di libertà per tutti, potrebbe anche iniziare a liberare degli schiavi. Solo che se c'è qualcuno della sua organizzazione che gli dice: ma che cazzo stai facendo? In sostanza, dopo ha un tiro supplementare per abbandonare l'ideale. Ok. Personal insight, hai un'idea di quello che una creatura senziente possa volere? In pratica riesci a capire che qual è il loro obiettivo, quali sono i loro bisogni o i loro ordini. Può essere qualcosa di lungo termine o immediato, e le specifiche variano da creatura a creatura. Quindi in sostanza ti serve a capire che cosa vuole una creatura senziente. E Ok. in quanto bonus poi puoi utilizzare questo in tanti bonus come interazione sociale con la creatura. Skill with defense, scegli un tipo di difesa, might, speed o intellect, e sei trainato. Semplice. Beh, ci penso Pensaci, intanto. ok. Ci penso. Ricordati che in più di questo, tu che cosa sei? Già, ricordami un attimo, sei tu combatti con Un astuto glint che padroneggia un'arma. padroneggio un'arma, quindi nel padroneggio un'arma prendi anche quello che riguarda il padroneggio un'arma al passaggio, che è quella la parte interessante, quindi in pratica Master's Weaponry. Master's Weaponry. In pratica al livello 2, quando utilizzi la tua spada, sei trainato in Speed Defense Rolls. Quindi adesso, quando hai la tua spada in mano, la tua spada preferita, sei trainato in Speed Defense. Finalmente smetterà di essere un Ok, sacco da vabbè, punti, boh. me lo metto sulle skill sta cosa, quindi. Cos'è sta roba? Che Il finché la fatto. spada in pugno è addestrato Ah. nelle difese. Esatto, nelle difese di speed. Io Ok, invece qui. sono addestrato negli attacchi Ma adesso. se ha qualcos'altro che non è la spada? No, Perché sa sono difendersi padroneggio meglio un'arma. quando ha con la sua katana è più Ma scusa, ma minacciante, danni a quindi. noi, ma cosa prendo? Prendi colpire la sprovvista. Non volevi fare tutto furtivo? Sì, ho capito, ma dov'è colpire la sprovvista? Ah, Nella cazzo. foto che ti ho mandato. Ma porca troia. Ah, è il quarto. Quando Allora, cerca sta cazzo. stai cercando delle mosse da No, Jack? dove si voleva improntarsi un po' sul combattimento. Sì, sì, sì. Fai quello? Sì. Mi specializzo in furtività. Oh, guarda, allora c'è uno che si chiama Blackout, se vuoi essere furtiva. Ah, anche quello è Ca figo. causi tutte Sì, le le luci sorgenti di luce. Infatti sono indecisa. a Solo spegnersi. l'altro ti fa picchiare. Quando il Dipende. Jack attacca una creatura che ha sorpreso, la difficoltà del tiro per colpire è diminuita di un grado e l'attacco che, se è successo, infligge un danno aggiuntivo. Esatto. Anche quello è bello. Vabbè, dai, però intanto. Sì, dai. C'è anche opportunità, ce ne sono. Eh sì, infatti, per quello sto andando in crisi. E ora che cazzo scelgo io? Scaldo, tu hai bisogno di una mano? Io ho fatto tutto. C'è di Perfetto. già? Hai Yes. fatto i compiti a casa lui, per quello. Ho Lui fatto se tutto. l'aspettava già. Io mi Io aspetto di auguravo. superare il portale, non mi Visto che fido. io in teoria di danni ne faccio comunque, no, non credo prenderò qualcos'altro da picchiare Basta. violentemente. Penso. Difenditi la testa. Oddio, sono uscito. Esatto, prenderò un addestramento nelle difese di intelletto. Che Già. visto che ho intelletto 7, e ho visto che questo tizio vi ha frullato il cervello, io me lo sono perso perché sono molto Ma tattico. realmente ha frullato il cervello solo a me. Sì, ma se lo frullava a me diventava una gelatina, ok. Vabbè, sì, tu andavi sotto. E in più non l'ha fatto apposta, poverino. Esatto. E se no avrei il blocco, perché avrei lo scudo figo io, sarebbe qualche bel potere per lo scudo, però ho il maglio, quindi sarebbe qualcosa per fare un doppio attacco, Might blow. Colpisci due ma. nemici in Esatto. una sola Sì. botta. Cioè, però di danni ne faccio, non è comunque, quello. una cosa che non. Cioè, il mio prossimo, potere, diciamo, di, come si dice, con il tier 2, no? Sì. Mi dice la difficoltà del tiro per colpire è aumentata di un grado, ma se l'attacco va a segno compromette la vista della creatura. Quindi faccio più fatica a colpire. Esatto. Però se lo colpo vista, Lo secondo cechi. il... Sì, No, però... se prende l'altro da Jack che abbassa la difficoltà di un grado, bilancia. Esatto, però devo Esatto. colpirlo alla sprovvista. Va Esatto. bene, dai, sarebbe interessante fare questa combo. Anche il Era mia. fracassare un meno uno al dado del colpire è più 3 i danni. Io. Chi? Tu fracassi? No, beh, dai, prendiamo addestrato difese mentali, Cioè, fra poco proviamo sei un come faccio. macellaio. Io sono già un macellaio, da questo istante in poi sono un macellaio e tu non sai cosa ho preso per il resto. Ok. Finizia. Allora, io sono un po' indeciso, però penso che prenderei quello che capisco i bisogni. Quello che capisci bisogno, ok. Sì, soprattutto per commerciare meglio. Perché in realtà calmare per un round alla fine è l'incoraggiamento che può fare la difesa, così, quindi durante l'attacco ho già l'incoraggiamento, mi basta quello. E la falsa identità. Ma a livello di speed defense c'è già l'altro che Sì, ti è ben esatto. venuto, quindi. E l'altro che mi piaceva era la falsa identità, però con l'ingannare magari, che sono specializzato, riesco comunque a giostrarmela un po', quindi prenderei il capisco bisogno. Si chiama Personal Insight. Un'azione, mi costa qualcosa Ti costa farlo? 2 punti di intelletto. In pratica, interagisci o anche studi dall'esterno una creatura senziente, per un paio di round. E dopodiché riesci a capire quali sono i loro bisogni, i loro ordini e cose del genere. Ovviamente capisco, cioè li capisco parlandoci, cioè, No, o no, no, anche non forza. se Puoi farlo cioè anche parlando o anche solo se osservandoli. sono, ah, ok, quindi anche se sono, se parlano un'altra lingua non è un problema. È più difficile. A discrezione del master. Cioè ti Sì, dico, cioè per tipo esempio, non posso sei un sapere qual essere è. senziente, ma è, non lo so, un cubo d'energia, non parli la lingua e a livello fisico, beh, è un po' complicato, ti darò dei malus. Se magari uno che parla un dialetto da qualche altra parte riesce a vedere comunque che, non so, sta guardando sempre il sedere della cameriera, riesce a capire che è interessato alla cameriera, per esempio, o al cameriere. Sì, bene, bene. Ok. Cosa prendo? Più 2 recovery roll potrei prendermi 4 punti nelle caratteristiche o un addestramento. O un'azione, cioè un'azione da glaive. L'ho già preso, ho Ah, l'hai già presa quella. preso l'opportunismo. Per quello che sono indeciso, ma penso che il più 2 recovery roll non sarebbe male. È un D6 più 4. Non farebbe schifo. Dai, prendo il più 2 recovery roll. Si può sempre, anche se ho già preso l'attack tecnica del glaive, mi dicevi la volta scorsa, giusto? Sì. Quindi come avanzamenti c'hai l'effort, l'edge, l'opportunismo. E adesso sto pensando tra il più 4 nei pull o il più 2 recovery roll. Ok, sì, così è fattibile. No, prendo più 2 recovery roll, dai, che mi sembra. Perché col fatto che lo tiro 4 volte al giorno è un bonus più distribuito dei 4. Tanto sono addestrato, speed ne ho, might ho edge 5, quindi non ne spendo tanta. Dai, facciamo così. Quindi va un D6 più 4. Per il resto avete fatto sì? Sì. Mi dite voi quando siete poi a posto, che continuiamo la descrizione Sì. eventualmente. Io sono a posto. Ok. A posto. Io sono a posto. Ah, sono addestrato con i contundenti pesanti, Master, giusto per... Contundenti pesanti. Ok, scrivo nella scheda, quindi non c'è problema. Sì, già fatto per Perfetto. avvisarti dell'improvviso power up. Ok. Non Quindi cosa friggiamo, il devoto o uno di questi nuovi giocattolini? Gi giusto una cosa, sappiate che non baro, eh? Quindi le avventure eventualmente le preparo al volo, quindi non prendo contromisure a quello che prenderete adesso, eh? Nel senso, se No, ma tu prendile. Dimmi la Cosa? prova. Voglio godermelo un po'. Ah, vabbè, ma solo tu però ti godi. Sì, quando colpisco le sfilze di uni che ci hanno perseguitato in certe sessioni, Beh, lasciamo non per quello, perdere. dai. Nico, tu aspetti, per il... Sì. E Ok, quindi perfetto. chiedo, cosa usiamo per alimentare sto portale? Bisogna decidere un po'. Perché da quello che mi raccontava Nico, il devoto volevate venderlo una volta raggiunta la superficie vicino alla costa, che aveva tanto valore. Sì, abbiamo Però mostrato le tette. se non ci andiamo, anche venderlo, anche è vero che non sappiamo dove andiamo a finire, è un po' di luce. Fa sempre comodo, però cioè, è scomodo da continuare a portare dietro in eterno sto coso. Sì, ma si possono usare solo artefatti o anche cipher? Anche Cypher, Anche però non Cypher. so dire quanti. O sai che l'energia stoccata in un artefatto è maggiore rispetto a quello del Cypher. Indubbiamente. Se Ci no, vorrebbero se... più cipher. Sì. Io preferirei togliere tipo... Io ho due cipher comunque da buttare se volete. Io volendo altrettanti. Io ho un cipher da 2 e un cipher da 1, però ci sono fighi tutti e due, non li Ah butterei no, mai via neanche con i uno. fighi no. Io attualmente ho tre cipher, quindi uno comunque potrei buttarlo via, se nessuno ha spazio. Quindi ne avremo cinque da buttare. Cioè non sono male, però posso buttarlo, insomma. Non so se pillo, Sì. cosa Ma abbia pillo. io preferirei evitare ragazzi. Preferirei evitare di perdere artefatti. Esatto, infatti quelli che abbiamo, cioè questo qua nuovo con le sfere, può essere molto molto utile. Pure il registratore, sinceramente. Sì, no, di artefatti, se butterei via qualcosa, butterei via il devoto, che tanto più di far luce. Fa 4 danni anche. Sì, non abbiamo mai usato per fare 4 danni, perché sennò diventavamo ciechi, quindi... Cioè, quando lo uso per far luce, non per sparare. Sì. Certo che Quindi l'unico che può sembra. usarlo fuori dall'acqua sono io, praticamente. Ah, però aspetta, No, in aspetta. realtà sì, lo possono usare tutti, avevo detto. Einet, quanto Però. avevi fatto col tiro di Numenera, scusatemi? DC 7. 7, ok, no. Quindi posso dire direttamente che almeno un artefatto dovete mettercelo, se no non funziona. Ah, ecco, Grazie, oltre Master, che dopo se no stavo qua a decidere. a scelta. Quindi Io non nel momento in basta. cui Nico sente questo, nascondo i suoi artefatti. Beh, abbiamo un coso che fa elettricità, più batterie di così. No, Allora, contanti. il devoto, giustamente, se ricordate nella descrizione, anche qua non è fatto apposta, veramente, c'era il fatto che poteva essere Sì, della utilizzato batteria. come batteria. Ma Sì, me ancora lo ricordo, è ma casuale, stavo non l'hai cercando di preparato. insabbiare questa cosa e tu l'hai mostrata tu. Vabbè, No, ma hanno è lo stesso iniziato loro a devoto. dirlo, è per quello. Master, per No, favore, puoi avere c'è rispetto per le tette di Nico? Nir che sta sfogliando il manuale illustrativo del devoto. C'era Nir che aveva Questo iniziato a dirlo, è per quello che ho continuato con la non c'entra descrizione. niente. Questo c'è Nico che ha dato le tette insieme ad Einet. No, ancora. Non potete. Ancora con Ma queste cose. Abbiamo speso 25 shin e mi pare che anche Einet. Per trovare un prezzo adeguato, dopo Non tutte era le per trovare la casa, peripezie. era per comprare qualcosa e farci fruttare i E poi soldi. non Ho ti fatto trovare tutto. la casa, ti fa trovare Quindi la guida che ti fa dimostra che non trovare la siete. casa. Quindi Questo dimostra praticamente ho quanto fatto poco siete un investimento sbagliato. abili. No, però se tu lo usi come batteria, si scarica del tutto. Ma comunque non è un investimento sbagliato, perché tu, investi per andare a prendere la guida che serve per trovare la tua Sì, casa. ma io ho perso Quindi in 12 realtà scine in it. o hai investito Come 12 scin vivrò per da avere qui? lo strumento che ti consente di arrivare dove arrivare. Io ti dico, ritrovare la tua casa vale più o meno di questi scin. Ma certo che vale di più, il problema E sono le allora infilo il sanguisughe. devoto in quell'aggeggio, scrivo Enete prima di fare disastri. Il problema sono le sanguisughe di questo gruppo che continuano a volere soldi. E quando Ma tanto le non è mio il promette. devoto, che cazzo me ne frega. Non perché mi sono sentito in causa, Sì, ma cioè, tu sei in questa spedizione perché ti abbiamo promesso soldi. Gli abbiamo promesso dei soldi. Mir, non rammenti? Io non dico c'entro niente, perché. sei tu il capo della spedizione. Sì, Non ma ti dico abbiamo perché. promesso dei soldi. Anche tu stai cercando la casa, Mir. Io Ma c'è quello che c'è dico. dentro la casa. Io dico, beh, ma in realtà lo scopo iniziale era quello, ma ora mi voglio troppo bene per abbandonarvi. Dispiacere. Questa cosa non mi puzza molto. Comunque va bene. Visto che sono a capo di questa spedizione, starò per la democrazia, quindi decidete voi. Allora, guardiamo un po' gli artefatti che abbiamo. Allora, abbiamo un bacchetto elettrico No, il banchetto elettrico che per me niente. si può buttare subito. Cioè, Ma no. buttati te. Beh, ti è servito per bruciare i funghi, lascia stare. È Vabbè, io vero, potremmo farlo ci con una serve. torcia forse. Faccio 6 danni con quel Il pocket coso. dimension è troppo utile perché quando manca Sì. qualcuno, cioè, Confermo. È il portagiocatore. Esatto. Era l'escamotage del master, quindi quello non si può toccare. Esatto, vedete che Io quello ti c'è avevo appena. la spina inglese, quello, non riuscite a attaccarlo in pratica. C'è la spina Ok. tedesca e quello non funziona. I due artefatti di osservazione abbiamo appena presi, Esatto. almeno usarli una volta, così facciamo uno subito e poi li buttiamo via. No, no, appunto, dai. È il devoto, dai. E il devoto, insomma, serviva per la missione sott'acqua, ha fatto il suo tempo, adesso basta. Cioè, fatto dai pinguini. Vabbè, niente. Vabbè, se vuoi lo possiamo portarcelo dietro Dopo, pure. appena di là del portale, saremo al buio più completo, ce ne pentiremo subito, però. Beh, io non ho problemi, siete voi casomai. Allora, Nico, sentiamo, cosa metteresti al posto del devoto? Quel coso che registra nella stanza. Quello degli altri, eh. No, vabbè, no, aspetta, che registra tutta la giornata lì. Sì, Anche però secondo non lo me so, quello non dai. è Beh, ma fondamentale. Enet lo usa per fare i video di lapdance Il su YouTube. videoblog. Non proprio, non era proprio quella lì. Per mostrare le zizze e poi venderlo, ho capito. Ancora. A Va bene. 360 gradi, tra gli Va altri. bene, allora va bene, buttiamo il Ancora. Chiudo devoto. il business. Ma solo perché Enid vuole mostrare le zizze e No, riprenderle assolutamente no. e venderle. Io do via il devoto solo per quello. Queste giovani Lolite. Enet, Io come si incastra il devoto in sta cosa? Master, glielo mostro. Allora, vedi, in An pratica anch'io glielo mostro. prende Glielo state e mostrando? nel devoto è fatto apposta, c'è una specie Ah, di cavo. incredibile. Personaggio. Enet ha individuato. È incredibile. Bisogna misurare attentamente le parole. Faccio notare a Nico che Enet ha qualcosa di strano tra le Vabbè, allora non si fa. Che senso? Ha detto, glielo mostro? No, no, faccio vedere come si mette il devoto dentro il portale. Devoto e portale. Sempre peggio, più Hai usato simpatico. mette dentro nella stessa frase, ti sei bruciato da solo. Va bene. Ti rendi conto che non Continuiamo. sarà un'operazione facile, quindi ci vorrà un tiro di Numenera per in pratica innestare nella centrale di alimentazione di questo portale il devoto. Quindi ti faccio fare un tiro unico, eventualmente per devoto più Cypher, quindi più ce ne mettete più sarà facile. Posso capire la difficoltà? Ti sembra piuttosto difficile. Ti sembra piuttosto difficile. È il momento in cui Ennet fa uno. La nuova abilità posso utilizzarla? Beh, certo, sì. Ok, allora Ti magari in senti questo in modo. armonia con questa cosa. Sì. Attento a quello che dici. In armonia, sa tutto quello che. Una parola innocente, in armonia. Ma non avevamo detto niente! Sì, è che vi conosco. No, è che ti stai convertendo. No, no, è che qui, cioè, beh, Che maliziosa. tira più un pelo di. Allora, dunque, Di devoto. tira più un cristallo di. sì, in salita contro mano. E in pratica volevo. Sì, riesco a capire il livello con questa abilità? Cioè, Ok. quant'è la difficoltà? Ma metti l'abilità così la vediamo Ok. anche noi. La difficoltà Esatto. dovrebbe essere. Per attivarlo, sei. Sì, 6, quindi se uso questo diventa 5, 4, 3, uso 2 Io è ti posso dare un. fort, uso 2 è fort e diventa DC1. Tu che Quindi cosa usi? un safe. Vabbè, va. No, La ma DC1 me la rischio. Cosa potrà mai succedere? Un uomo di danno. no, io ti do un safe. Non devi dirlo, non devi mai dirlo. Perfetto. Ok. Quindi 7 più 1, 8 per il potere. Fatto. Perfetto. Vedi che in È pratica bastato solo il devoto. scarichi il devoto di tutto il suo potere e vedi che l'arco inizia a illuminarsi e si attiva. E noi non siamo nel posto giusto. Siete nella stanza, immagino voi. Sì, per Ok. carità. Steel, tu che eri vicino all'altra console, noti che si Oh. accende anche quella. Ok. Vedi che anche quella inizia a avere come dire, inizia a accendersi e se senti un di caricamento. Dopodiché, senti che vedi una specie di cortocircuito nella console di No. fianco. Non sembra essere legata direttamente. No, niente. Non. Senti anche che inizia a trasmettere dei segnali subsonici. E sentite che avete qualcosa che non va nella testa. Fatemi Ma porca. un tiro di Interact Defense a difficoltà 5 per Che cortesia. culo ho appena Vai, preso. Difficoltà 5? pensa, potevo No, fallire certo. ma cazzo, si sapeva la difficoltà, cazzo, vabbè, Ho fatto fattisci. 5! Ci Scusate. sono due effort. Chi è che ha sbagliato si fa 2 punti di intelletto. Oh, ma se, e Ok. basta, scusa, me 9, loro 2. Ok. E in più iniziate a fare dei movimenti di scatto come se aveste un tic e non Ah, è riuscite a solo mia controllarvi. comunque. È solo mia. Sai che ho con questa cosa con da sfoggio di forza non è molto. Va alla grande, direi. Esatto. Ma quindi cos'hanno tipo la nausea? No, vedete, tipo avete de degli scatti, della specie di tic che non riescono a controllare il loro corpo. Cioè, cose così. Oh, vabbè. Se qualche Ok. bug. Fate qualcosa? Chiamo aiuto. Ma quel. Ma per il resto funziona? Cioè, è solo successa Sì, questa cosa? vedete che il portale si sta caricando. Einet vi aveva detto all'inizio che aveva bisogno un po' di tempo Sì, di un minuto. per caricarsi. Vabbè, io finché carica, Cos'ha da raccolgo fare dei. questo? Ci sono Danno. ancora tipo i funghi bruciacchiusi per terra o sono scomparsi? Che cosa, scusa, non ho sentito, scusa. I funghi bruciacchiati. Ma Sì, tu, sono ancora per terra. cioè, le idee geniali non puoi non avercele. No, non possono avercele. Prendo un po' di questi funghi. Sentite un'altra scarica di queste energie. Fate un altro tiro. Ma porca Sempre difficoltà 5. scusa, sono Trained. Ok. Ho premuto il pulsante sbagliato. Wow. Giusto. Cazzo. Ok, chi ha sbagliato sono 2 punti. E quale altro check hai chiesto adesso, scusa? Sempre lo stesso, my defense, perché la macchina, l'altra macchina di fianco sta continuando a mandare queste onde. È might defense stavolta? Internet, scusate, sempre internet. Internet. È sempre la stessa di prima. Sì. Sono de della specie di basse frequenze che vi impattano sempre difficoltà 5. Che belle cose. Non che chi ha sbagliato si fa 2 punti. Sì. Nir, è la seconda volta, giusto? Sì. Ok. Vai, Vedete Nir? friggimi. No, Nir e anche Steel, perché lui ha fatto uno di Gem Intrusion, che si mettono. Vedete che iniziano a lavorare sulla console. Vedete? Allora, anche voi avete dei movimenti incontrollati, fate tipo de degli scattini. Vedete però che Steel e Nir hanno smesso di fare questi scattini e stanno iniziando a schiacciare dei pulsanti e a No. lavorare sulla console. No. Ovviamente l'occhio non ve l'aveva detto. Einet. Non Io. possiamo non possiamo Non hai dire la fermarlo. stasi, Einet. Senti, capisco come siano controllati o se siano impazziti e premono a casaccio. Fai una prova di percezione. Ma certo, con gioia. Allora, vedi che ti sembrano dei gesti troppo precisi per essere dei cose che sembra che stiano reparando la macchina. Ah, no, no, Un altro allora pezzo di dico. console che non sembra illuminato e stanno lavorando su quello. Ok. Allora dico a Nico, non ti preoccupare, è tutto un processo numerico. Adesso sono diventati in qualche modo coscienti sul da farsi e stanno riparando il macchinario. Lasciamoli lavorare, dico io. Ma che cazzo stai dicendo? Ma quel macchinario è collegato al portale? Certo. Ne sei convinto? Ne sono Convinta? convinta. Convinta? Tu sei convinta? Penso di sì, Master, no? Ah, ok, penso di sì, Master. Fammi una prova di Numenera. Ah, Ah, va bene. Avevo detto che quella Anche console era quando distante. Io estraggo ti stavo lasciando un grumo dire, di cioè, cavi. eri convinto, quindi non dicevo niente, ma fai una prova di Numenera. Quando vedi che estraggo un grumo di cavi, forse inizia a venirti i dubbi. Allora, uso il potere, più faccio il check. Mi batto di C6. Assolutamente non sono connessi. Ah no, allora non sono connessi. Mi blocco in un attimo, dico, ora che mi ci fai pensare. La cosa è oltremodo inquietante. Stanno riparando la console, ma la console Non non c'entra ha. niente. No, quindi direi di placcare e Sì. di. Quanto ci vuole il portale per partire indipendentemente quindi dal. Allora, vedi che stanno caricando. Questo è il terzo round, no? Che l'hai attivato, Sì. prima scarica, seconda scarica, terzo round, ce ne vogliono ancora 10 round in totale. Vabbè, è questi qui. Ma qui dobbiamo rimanere 10 round a rischiare. Letto, è Siamo vero o no? morti. È vero o no, Master? Allora, tu riesci a vedere dalle scariche che il raggio non è infinito, quindi eventualmente stando nella stanza vi fareste male, sì. Allora, è possibile? Dobbiamo uscircene. Eh sì. Il sovraccarico, Ok, la lancia di allora Usciamo, sciorare, però. qualcosa, Ci penso friggimi. io. Ci penso io. Nir e Steel sono così, stanno lavorando, non vi Sì, cagano, sì. cioè proprio Sì, non stanno. mi interessano loro, mi interessa la macchina che stanno digitando. Io prendo il cavo di metallo rigido e vado a colpire la macchina. No, Ho paura. Fai una prova. Pensavo Ti è andata bene. Esatto, e poi non è ancora detto. Che, faccio una prova di speed, ok? Cioè, certo. Speed o might, dimmi tu come vuoi fare. Sì, di velocità. E metto metto effort, ne metto uno, o è meglio due effort, adesso che ce li ho. Beh, potrei provare. Oh, quindi sarebbe 5 meno legge, giusto? Ok. Sì, quindi metto 2 di effort. Ok, quindi sarebbe 5 meno legge. Sì, ok, quindi tolgo di 3. Ok, perfetto. 4, 6. 5, perfetto. Riesci a causare dei danni alla macchina. In effetti è quasi totalmente spaccata. Bene. Ok, perfetto. Sono molto contenta di queste cose. Si sono fermati. Quella sulla quale stanno lavorando loro? Sì. Ok. Lo stesso round, altra scarica dell'altra la console è fatta in due parti, questo l'ho spiegato. Ce n'è una parte che era accesa e una parte che era spenta sulla quale stavano lavorando Nir e Steel. È quella lì che hai picchiato. Quella che stavano riparando. Come divisa in due? Cioè, immaginate una grossa console, ma ce n'è una parte che è accesa e l'altra parte che è spenta. E loro su cosa stavano lavorando? Sulla parte spenta. Quindi quando hai attivato il portale, immagina, Einet ha attivato il portale, c'è cioè la parte destra della console che si è accesa. Hanno iniziato a arrivarvi delle strane cose. Dopo un po', Nir e Steel hanno iniziato a riparare la seconda parte di questa console, la parte che era spenta. Ok, Einet, posso urlare cosa colpisco? Sì. Einet, quale colpisco? Adesso te lo dirò io. Sì, sì. Sì. Master. Sì. Master. Sì, ci sono, scusa. Sì. Cosa, cioè, secondo lei cosa è più fattibile colpire? Beh, nel senso, dipende che cosa vuoi spaccare. C'è una parte che stanno riparando gli altri due e una parte che è attiva che sta facendo qualcosa. DC3. Non sai bene, ovviamente. Sei un cazzo. Einet, dimmi qualcosa. Mi fido. Quello ti dico. E indico a caso, quindi potrebbe essere qualsiasi cosa. Ma porca giuda, devo colpire. Ti dico lì, dai. Adesso faccio la sceneggiata isterica tipica di una donna che quando non riesce a capire ed è sorreccitata. Lì, no, non vedi? Prendi, che sennò qui. Ma sì, ma dai, quello dentro la borsa, dietro la porta. Allora, io spacco quello che stavano cercando di riparare. Brava. Ok, perfetto, spacchi quello lì. L'hai danneggiato ulteriormente, quindi sarà più difficile per loro. Però dall'altra parte, la parte che sta ancora funzionando, fate un altro Interact Defense Roll. Non Steel e non Nir, solo Nico e Einet. Poi vi rompiamo di là perché che bello. Vale. È lui questo. Nico, sono due punti di danno. Aspetta, l'avevi fallito l'ultima volta al tiro, Nico? Posso ritirare? Aspetta, fammi vedere. Sì, prima l'avevi fallito o no l'Intellect Defense? Il primo l'ho passato, il secondo no. Quindi questo è il terzo. Questa è la seconda volta che sbagli. Ok. Boh, ti dico, come effetto sì. Hai che partiresti anche tu a riparare il coso. Einet, tu hai sbagliato, l'hai fatto l'Intellect Defense? Questo no. Fallo? Ho fallito. Ah, l'hai fallito, quello precedente? Fallito. Quindi in teoria tutte e due dovreste andare a aiutare gli altri due a riparare la macchina. Io spreco un pix per far ritirare a Nico perché è un GM intrusion. Ma cosa stai dicendo? Tira. Ma c'è poca probabilità. Mettici effort. Sì, non può mettere effort in internet. Perché no? Niente. Ah, cazzo. Ma niente io. Devi far ritirare Einet. Fai di tirare Einet, io tiro per me. Tento la sorte. Dai, io tiro per me stessa. Ok, quindi rispreco un pix. Okay. Sì, allora però aspetta che mi devo tirare giù 2 di danno. Giusto? Sì, okay. Sì, riprenditi quello che ti avevo fatto. Sì, adesso aspetta, allora prima ritiro e poi vediamo, Esatto. ritiro anch'io, quindi. Ma si può mettere effort per sta roba oppure no? Virtualmente no, in maniera Ok. molto eccezionale dico sì. Cioè, in teoria, quando spendi un PX è per ritirare il dado, quindi se hai applicato effort, l'hai applicato, se no, Ah, no. tenevi il bonus di prima, già. Esatto. Cosa? Prima di tirare, avevi applicato l'effort? Ah, no, no, no. No, quindi in teoria Ero andata a è solo culo. ritirare il dado, quindi riandresti a culo. Ah, ok. Va bene, io ritiro a culo. È morta lì. Tanto non me la sento. A Bella. culo. Solo perché non te la sentivi. Scusate, ritiro anch'io, quindi, oppure no? Non ho capito. Dipende se Sì, spreco il perché... PX perché io uno l'ho sprecato, quindi uno devi Esatto. Ni Nico, ritirare. ti frego un XP? Sì, te lo Ah. stavo buttando Ok, fuori io. grazie. Non sei specializzato in turret defense, Ainet? No, no, Oh, ok. no, neanche a destra. Quindi siamo come tre deficienti, Sì, quattro esatto. deficienti, ma porca Eva. Eh beh, che Vabbè. però ho danneggiato, quindi magari. Sì, molto danneggiato. Ma scald? No, scusa, Ash? Confondi Ash, porca vacca, mi penso quello. Enid. Guardate, guarda, visto che Ash non è lì, chi è che tira per Ash. Ash Dai, un Intellect Defense? raga. Bruno, ovviamente. Va Bruno, che è bene. suo amico. Che sono un po' Così peggiccio. diventiamo 4 apete operaie, 5. Insomma, che l'ho tirato così. Allora, sarebbe difficoltà 4. Ma lui forse ce l'ha, Guardo. Sì. cioè cosa Lui ha vuole. addestrato, sì. Difesa mentale è addestrato. Allora, mi fate un altro tiro di Might Defense? Volete sprecare dell'effort per dare Prego, una papagna prego. sulla... Sì. Diciamo che lui stavolta picchia l'altro, quello sul quale non ha picchiato Nico. Ok, perfetto, grazie, Asha. Gli faccio spendere dei punti di effort? Sì. Ok, Tutto no, quello a che vostra ha. discrezione, poi faccio come volete. 1, 2, 3. Anzi, fallo. È già Dici passato di anche in livello, quale no? No, è già passato di tir con No. effort. Se no, mettili. No, dopo sceglierà lui, dai. Allora, guardate, lo facciamo col... diciamo di Might, dai. Faccio il buono, lo uso bene, ok? Fa una prova di Numenera, quindi spendo 1, 2 punti di intelletto e con Numenera cerca di spegnere l'altra macchina. Bene, Se trovo Numenera, dove è finito? Conoscenza bene. Numenera. C'è quattro personaggi piegati da una macchina, Lui ha non ho destrato in parole. maniera simile. È male. Quindi non ce la farebbe. Qualcuno gli dia un pix. O vediamo cosa succede il round prossimo. Fa un tiro di Intellect Defense e poi No. riproviamo. Oppure No, ditemi no, no. voi. Qualcuno gli dia un pix. Oh, ma che tacagni che siete, glielo do io. Ok, visto che Lo spendi. davo io, Vedi perché le ti lasci sanguisughe? parlare? C'è stato un momento di esitazione, nessuno che dice. Magari l'audio era in ritardo. Solo quello, esatto. Vai, tira Allora tu il me lo dado, dai. riprendo. No, chi spende il PX ritira il dado, facciamo così, così non ho No, ma responsabilità. io ho sfiga in queste cose. Ormai l'hai speso. Vabbè. Allora tiro un. Ti sei ribruciata l'avanzamento. No. Ok. Riesce a spegnere la macchina e anche riesce a No. distruggere in maniera totale quella sulla quale stavate riparando voi. Brava, amico. Improvvisamente prendete una scossa elettrica tutti, quindi fate E un punto beh, di danno tutti. Però gli mancava solo questa. in contropartita a questo shock elettrico vi ha ridato in sostanza i sensi e riprendete coscienza di voi. Avevate nella testa una specie di controllo mentale che vi guidava le mani per ricostruire questa macchina. Che diavolo è questo affare? E cosa fa questa macchina? Si riesce a capire? Allora, inizia a studiare la macchina, riesce a capire sì. quando d'improvviso dalla schiena vedete tutto che si illumina, vedete delle particelle in sospensione nell'aria con una luce bluastra e improvvisamente sparite dove siete, esatto, e davanti a voi compare un altro panorama. Totalmente differente, totalmente alieno. Siete in una specie di enorme deserto bianco. Ma no! Tutto intorno a voi è oscuro, anche se è illuminato dove siete. Tutto è oscuro e... Devoto? Il devoto non è più. No, per il buio lo stavo chiamando. Ah, no, ma sul nel senso è tipo è il cielo che è oscuro, è totalmente buio. Ah, ok. Il cielo è totalmente buio, siete su una specie di... in lontananza vedete una specie di deserto grigio chiaro, quasi bianco. Avete i piedi posati su una specie di enorme pannello di synth verdastro e vedete che a perdita di vista c'è questo pannello di synth, sembra enorme, come una specie di autostrada fatta di synth. Non respirate, sentite una grossa fonte di calore addosso e cercate di riempire i polmoni, per chi ne ha, e per Nir cerchi di bruciare la tua fornace, e vedete che non c'è aria, non riuscite a respirare. Provo a mettermi la tuta da sub. Dunque, tu hai tutto l'equipaggiamento, quindi cerchi di metterti la tuta da sub. Gli altri cosa fanno? Il panico. Nella sacca, Non siete nell'acqua. Non siete nell'acqua, ma non c'è aria. Mi guardo. Posso tirare innanzitutto un tiro di percezione per capire un attimo. Ma l'occhio dircelo, no. Ah, aspetta. Forse non avete sentito niente di quello che ho detto, no? No. Cosa ok, Io uso la bolla con i tubi per respirare sott'acqua, ma non so se... Quella roba! Ok, l'ho comprato. Sì. Ma funziona, cioè, fa respirare se non c'è... Provo. Lo lasciate fare? Perché dovremmo fermarlo, è la cavia. No, se volete fare qualcos'altro prima che lui faccia questo... Io volevo guardarmi in giro. Anch'io. Mentre provo... Fratemi una prova di percezione. Ok, percezioni. Ah, no, hai già tirato. No, scusa. Infatti, non riuscivo a capire niente. La sola cosa che vedete è che in sostanza non state respirando. Vedete che tutto intorno a voi è nel senso lo spazio, come il cielo è totalmente non è blu, è nero dappertutto. E siete su una specie di striscia verdastra in synth, è tutto quello che vedete, però state iniziando a panicare perché non cercate di tirare dai polmoni, stavate respirando normalmente. Le adesso mute non... ce le abbiamo anche noi. Allora, le mute non le avete addosso, però ho detto all'inizio della sessione che c'era Nir che se l'era portato. Ok. Steel tira fuori una specie di apparato. Fatemi una prova di intelletto tutti tranne Steel. Poi scoprite che il master era stufo di questa partita e messo su Marte. Ok. In sostanza capite che Steel ha tirato fuori questi respiratori. Vi ricordate che prima di partire li aveva preso così, giusto in caso succedesse qualcosa con il resto dell'apparecchiatura. E vedete che vi sta passando in pratica questi respiratori. Nico, tu sei di fianco a lui, lo prendi al volo. Einet e Nir, voi siete un pochino più lontani. Eravate tipo a 3 o 4 metri, vi bisogna muoversi per andare a prenderlo. Sorry. Io col fatto che avevo la muta personalizzata, quella roba lì funzionava con me o no? Non mi ricordo. Sì, sì, sì. Ah, funzionava lo stesso. Mm-hmm. Ok, vabbè, ma io sto già provando a mettermi la tuta, voglio vedere se la tuta funziona. E in caso. Ok. Dunque, tu passi un po' di tempo a cercare di mettere la tuta. Einet, cosa fai? Mi avvicino anch'io. Come ci vai? Correndo o piano? No, correndo. Ok. Inizi a correre. E hai come la sensazione che il tuo cervello vada più vicino del tuo corpo? Cristo. È strano perché inizi a correre e vedi che... è una sensazione stranissima. Inizi a correre e vedi che il tuo corpo in pratica fa un balzo in avanti di quasi 2 metri. E fai una prova di speed per cercare di correggere in pratica la traiettoria al volo. Difficoltà 3 per cercare di acchiapparlo, se no questo round non respiri. Bene. Okay. In pratica sei lì, salti verso il respiratore che ti sta porgendo still, ma in pratica lo traversi e ti ritrovi a 2 metri più avanti di quello che ti aspettavi di essere. Quindi fine del round, Einet passa un livello in giù nella damage track. Oh cazzpita. Sì, no. Gli altri iniziano a respirare. Senti, la mia tuta funziona? La tua tuta funziona. La tua tuta funziona e ti protegge in più anche dall'ambiente esterno. Per gli altri iniziate a sentire comunque il calore nella pelle. Sentite come una sensazione di bruciore, come se la temperatura esterna fosse o alta o bassa, c'è qualcosa che non va, diciamo. Sì. Tipo vuoto cosmico. Ok, quindi... Vedete Einet che inizia a avere un tono quasi cianotico, un po'... Sì. Io vorrei mettere anzi facciamo che tiro te provo a portargliela. Sì, io pure cerco di comunque avvicinarmi il prima possibile adesso. Ok, fai un'altra prova, questa volta inizi a capire un po' meglio, dunque la difficoltà sarà solo più 2. Se gli altri ti aiutano sì, cioè nel senso se fatto. Aiuto lei non posso farlo io. No, fatto. Okay, perfetto. Agito di impulso che mi veniva da agire di impulso. Ok, allora anch'io voglio provare a mettermi la tuta. Perfetto. Io voglio allora, aiuto Enet a mettersi la tuta che non sta bene. Perfetto. Che cosa devo tirare? Fatemi una prova di speed. Guardate, difficoltà 1 è sufficiente perché c'è qualcosa che non va. Non siete, come dire, metto un effort. Cioè, c'è qualcosa dei movimenti che vi pare un po' strano. Ok. Beh, riusciamo tutti. Perfetto. Sta benissimo in questo posto. Einet, riprendi fiato, c'è cioè una sensazione quasi di rinascita, il fatto di poter di nuovo respirare. E iniziate anche a mettervi le tute che vi sembrano proteggervi dal calore o dall'ambiente, non vi sembrava troppo, come dire, vi sembrava ostile. Tra l'altro, adesso che iniziate a respirarti, Nico inizia a guardarsi indietro e vedi che c'è un al posto della luna c'è qualcos'altro. C'è un'enorme massa bluastra con una specie di macchia nel mezzo. Qualcosa così. Non dirmi che è l'occhio. Non dirmi che è la terra. Ho detto una roba nera al centro. Una massa a forma romboidale nel centro. Ma fanculo, master. Guardate su guardate su Discord. Ma porca zozza. Dire che per stasera ci possiamo fermare qua, visto che mancano solo 5 minuti. Chi è che viene da Navarren? C'è qualcuno di voi che è navareno o mi sbaglio? Io vado attraverso Navarren. viaggiato, andato e ritorno. Nessuno è originario di Navarrene? No. Ok, beh, sai che c'è hai sentito dei bambini nella carovana che cantavano una cantilena e che dicevano Night Sight, Moon Sight, Stripe Tonight, Night Sight. Vuol dire, come dire sguardo di notte, sguardo della luna, c'è la striscia questa notte, sguardo della notte. Sapete che guardando la luna, spesso, ve l'avevo già detto all'inizio delle avventure, sì, vedevate una striscia verdastra in mezzo alla luna, ma non tutti i giorni, ogni tanto spariva. E in quanto sembra, e siete in mezzo a questa striscia verde, in pratica, sulla luna. Bello. La prossima volta che prendiamo un portale e finiamo in un posto dove magari si respira, sarebbe molto bello. Questa è la casa che voleva Nico, questa. No, questo è il posto vicino che ci porta alla casa. No, lo so. Riuscite a comunicarvi se vi proprio incollate l'uno all'altro, perché se non essendoci aria, sentite un po' le vibrazioni nei caschi, ma ce n'è abbastanza per... Quando realizzate che siete sulla luna siete piuttosto sorpresi, perché non è comune andare sulla luna, diciamo. Anche se ogni tanto sapete, ve lo do come background soprattutto, nel nono mondo sapete che ci sono dei visitanti, quindi gente che viene da altri mondi, quindi sapete che esistono altri mondi. Quindi... Sì, probabilmente io sono uno di quelli, uno di Masuglio. Non si sa, tu come... Sì, è messo tra i visitatori, ma non si sa. C'è un potenziale visitatore. Ok. Pix, allora, avete trovato la luna? Boh, non è difficile, però diciamo che l'avete trovata andandoci sopra, quindi è stato un Pix supplementare a tutti. Un piccolo Pix per l'uomo, un grande passo. Anche per cosa? Sì, non do... si troverà... diciamo che grazie a lui non siete tutti morti. Esatto, grazie. Adesso scrivo. Che non è male come... Ho tirato io. Esatto. Hai sprecato anche il PX, quindi... Ne ho sprecati due. Ok. Ne ho sprecato anch'io. Qua nessuno si interessa a sopravvivere. Ovviamente. Quello per il fungo ve l'ho dato, giusto? Sì. Sì. Quindi vi avevo dato quello per la missione, quello per aver scoperto la luna, che non vi avevo dato prima perché non c'eravate ancora. E quindi dovremmo esserci a conto PX, giusto? Sì. Ne avevate due? Nico, avevi un PX tu? Eh? Ne avevi uno solo? Perché vedo che Nesram non ha preso il PX. Dunque, che cacchio ho fatto? No, a me non è arrivato. Lei ne aveva due, doveva andare a tre. No, sì, io devo arrivare a tre. Anche a me manca. Ok. Ecco. Ah, così. Cioè, ne hai uno anche tu adesso. Allora, so che Ash ne aveva tre prima e adesso non so quante ne ha, perché bisogna vedere una volta che si rilogga. Boh, ok, ne aveva marcati tre sulla... Ne aveva marcati, perché non so se avete visto, però quelli col token non credo che siano gli stessi che avete sulla scheda. No, giusto. Esatto, ma in scheda separati. Infatti non li segno e li guardo solo quelli del token, se no continuo a fare confusione. Ok. Perfetto. Meno male che non ho preparato troppo il resto dell'avventura, mi sentivo che non avremmo, come dire, avanzato molto questa sera, quindi sono detto forse quei passaggi di livello sarà ancora un po' più lenta, quindi. Quali passaggi di livello? Non l'ho fatto. Devi farlo subito, guarda, sai cosa c'è? Era utile. Era obbligato, guarda. Vedi quanto era utile in realtà non spenderli, perché ho potuto... quindi spendevano gli altri, si volevano guarda, c'è ancora 2 secondi, mezzanotte è precisa, quindi ho ancora tempo per una GM intrusion, la vuoi? La luna, sono così sicuro. Sì, la vuoi o aspettiamo la prossima? La voglio. Okay, una per te, l'altra per chi è? Per Ash che non c'è. Ok. Ma se continua così Ash, continua a non venire, se si è fatto una caterva di XP stasera. Ma come? E anche un'altra volta ho saltato. Però lui deve anche lui passare, o no? Sì, credo di sì. Sì. Guarda, quando ti sei messa il respiratore, cosa, hai il tuo respiratore, ti sei messa la tua tuta adesso? Sì. Ok, in pratica inizi, tranquilla, sei stupefatta dalla terra quando ti accorgi che il tuo respiratore sulla tuta è rotto e quindi inizi a tirare d'aria e non funziona. Cazzo, il tizio mi ha fregato quando mi ha venuto. Era un pezzettino, fate attenzione, tra l'altro ti ricordi e lo ricordi anche agli altri che avete usato comunque i respiratori sott'acqua, quindi vi rimane una quantità limitata di aria. No, ma in realtà questo non l'abbiamo mai usato. No, non il tuo, ma loro si sono messi le tute, cioè Nico, Nesram, eccetera, eccetera. Nico si era messa la sua tuta. Ma... E quindi non posso passare a usare il suo? Ah sì, ti devi fare una prova di speed, difficoltà 3 perché sei panicata e anche okay. Soprattutto perché Steel si stava facendo i cacchi suoi, stava guardando il nono mondo, stava guardando la terra, quindi non ha fatto caso che stai finendo l'aria, okay. E quindi ha difficoltà 3 per toglierti il respiratore e andare a aggrapparsi al suo. Ok, ma posso mettere effort? Certo che puoi. Ok, allora metto 2 di effort. Ok. 2. Quindi costa 5 punti. Ok. Ecco, totalmente panicata, in pratica ti stacchi il tuo respiratore, in pratica inizi a correre, ma come per Ainet prima, non sei abituata alla... no, salti, e salti ti ritrovi più o meno a 4 metri d'altezza. Ah, perfetto. E tra l'altro scendi uno nel damage track anche tu, perché sta iniziando a... Ok. E fai un'altra prova... Devi iniziare dalla forza? No, nel damage track. Ah, i pool li lasci pieni, è solo che prendi tipo un damage track sulla morte. Esatto. Adesso sei Hail, dovevi essere debilitato. Ok. Mm-hmm. Devo dare Impaired o debilitated prima? Infatti. Impaired del primo. Ok, fatto. Dopodiché puoi riapplicare, cioè puoi ritirare per cercare di scendere e acchiappare il problema, sì. È che Steel non può aiutarti perché non si è accorto in pratica che sei saltata così in alto, quindi non, gli altri non ti possono aiutare, ma puoi fare un'altra prova di speed per... Ok, quindi di nuovo ritiro con l'effort. Allora, due per volte. L'effort ti costa, ognuno dei due livelli ti costa un livello in più, quindi ti costa 5, 6, 7 in totale. Ok, quindi alla fine mi costa 5. Oddio, scusate, perché sta aumentando invece di abbassarci? Avevo 9, ok. No, cosa avevo? 9, sì. Avevo 9. Quindi mi costerebbe 7, giusto? Esatto. Mm-hmm. Ok, quindi 5. Perfetto. Esatto. Comunque sto morendo lo stesso. Interessante questo. Bello. Dunque, difficoltà 3 ce l'hai fatta perché hai messo l'effort e Steel ti senti strattonare dietro perché sei attaccato allo stesso tubo in pratica. Strattoni dietro e vedi, ti giri e dietro di te c'è Nico Cianotica che sta avidamente respirando nello stesso respiratore. Nessuno che mi caga. Ah, ok. No, stai già respirando, giusto? Sì. Ok. Tra l'altro ti fa segno tipo non c'è più aria nel mio e anche tu inizi a preoccuparti della siete in mezzo alla luna e non avete aria infinita, quindi la prossima volta bisognerà probabilmente cercare un po' d'aria o altra roba così o sacrificare qualcuno. In effetti io avevo tutte le tute e potevo andare via ma che quella volta no? Vabbè. vedi che cominci a ragionare da sopravvissuto. Bon, ragazzi, direi di fermarci stasera. Mezzanotte 5, però, ci può stare. Adesso che siamo arrivati al tier 2, si può sapere il descrittore e il focus di Ene? Ah. Sì, anch'io sono curioso. Non si capisce niente. Ma dai, no. C'è roba da scoprire ancora. C'è roba da scoprire. Scopriamolo. Bello. Dai, il descrittore glielo puoi dire. Descrittore, sì, il descrittore è favolosa. È una favolosa mano. Favolosa mano. E in effetti è favolosa. Del resto. Adesso facciamo le domande importanti. Hai preso la stasi, vero? no. Rischi il linciaggio se non hai preso la stasi. Eh no, ho fatto una cosa anche molto interpretativa. Cioè che hai Tra preso l'altro, un'altra abilità del Tier 1, bravo. perché lo so io che hai preso l'interfaccia macchina, Ha maledetto fatto vigliacco. bene. Ma Ha fatto bene, se no non avrebbe funzionato la macchina. quale macchina? Quella una crema, Se ha preso quello, sempre se ha preso quello. sempre si è preso quello, Dubbio. sempre se. Allora, Ho a fatto nuova abilità con la macchina a bassa difficoltà, ho detto visto. votazione, a chi lo do il premio interpretativo stasera? Ash. Guarda, stasera lo do a Nico che si è sprecata Giusto, giusto, due XP, giusto. dai. Mentre gli altri guardavano i piedi, spostavano i sassolini, tipo, Esatto, facevo una finta di niente. Ah, ti serviva un XP. Allora, guarda, Comunque, segnati è questa, è un il secondo praticante. rango tra il manuale base, proprio il primo, è adattamento. Adex è adatta in un ambiente ostile per 28 ore, puoi aiutare un gruppo a non morire. Tipo, Lo quindi, so, l'avevo visto quel potere. sono sulla luna, sott'acqua. Ho capito. Ho capito. No, Guarda, purtroppo sono proprio i poteri. Nico, segnati questa. Se è tipo vai lassù, sei motivata ad arrivare a una certa altezza. La difficoltà di salti o scalate è abbassata di uno step. Quindi la prossima volta che vuoi scalare, se vuoi c'hai un bonus nel quale ti dici, sì, un bonus di motivazione. Per scalare o saltare. Buono. Ok, buonanotte per davvero stavolta, ragazzi. Buonanotte, è stato un Buonanotte a piacere. tutti. Alla Sì, prossima. grazie. Ciao. Alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.